Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Oggi è il 17 gennaio e proprio in questo giorno del 1949 nasceva a New York Andy Kaufman, un attore comico straordinario sopra le righe, un attore fuori dagli schemi. E sempre il 17 gennaio del 1962 nella città di New York, non lontano, nasceva un altro grandissimo attore comico, Jim Carrey. Il destino ha di nuovo avvicinato queste due grandi personalità, poiché proprio Jim Carrey ha interpretato la vita di Andy Kaufman in una pellicola di Milos Forman, Man on the Moon. Benvenuti ad una nuova puntata di Voice Anatomy, un viaggio nei mondi della voce. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. We'll see you in heaven if you make. E con Man on the Moon dei REM apriamo questa trasmissione, ma soprattutto apriamo con un ospite particolare. Oggi parliamo all'inizio di Legal, della voce dell'avvocato penalista, e al mio fianco c'è proprio un grande avvocato penalista, ha conseguito, pensate, il Master of Law alla University of Cambridge, già ricercatore presso l'Università di Roma, la Sapienza, è insegnato all'Università di Malta, la ENI Corporate University, è professore titolare presso l'Accademia Ufficiali della Guardia di Finanza, per cui teniamocelo buono, docente della Scuola Forense dell'Unione delle Camere Penali e della Business School del Sole 24 Ore. Signore, al mio fianco il grande Roberto De Vita. Benvenuto Roberto. Grazie, buonasera Pina e buonasera a tutti. Sentite già dalla voce, grande professionale, non è un doppiatore che sta doppiando un avvocato, ma è realmente un penalista con il quale apriamo questa trasmissione non perché ci siano arrivati delle denunce, ma perché anche questo riguarda il mondo della voce. Poi la faremo in una puntata più approfondita per quanto riguarda proprio la voce nei processi, perché tutti noi abbiamo nell'immaginario collettivo il processo americano, il grande avvocato penalista con la grande arringa finale. E allora, carissimo, è importante la voce per quanto riguarda il tuo mestiere? Ma la voce penso che sia importante in ogni manifestazione di relazione e massimamente quando si deve convincere, perché l'arte della persuasione è quella che si esercita quotidianamente, non solo nell'aula ma anche nei rapporti con le persone che un avvocato incontra. E quindi la voce diventa il veicolo più importante delle parole. E in questo senso la voce accompagna le parole e quindi una grande attenzione al linguaggio, sia tecnico che accessibile, e al contempo al discorso, l'organizzazione delle idee per come le vogliamo rendere alle persone che ci ascoltano. Ecco, già innocente quello che stai proteggendo, vedi, anche se fosse colpevole con la tua voce, in questo momento l'hai reso innocente. Ma a volte il problema dell'innocenza o della colpevolezza è il pregiudizio in senso tecnico con il quale si osservano e si vogliono giudicare i fatti. Che non è pregiudizio tutto insieme, no, ma è pregiudizio. Cioè nella maggior parte dei casi, ma anche noi che siamo, come dire, abituati a confrontarci con i processi, abbiamo già una idea preformata di quella che è la responsabilità di una persona, e molto spesso questo è legato al tipo di reato che viene contestato. Più il reato è ripugnante, raccapricciante, e più il soggetto al quale viene attribuito per noi è colpevole. E allora il compito del difensore, del penalista, è proprio quello di inoculare il dubbio attraverso un insieme di ragionamenti logici e di emozioni, e la voce è la chiave attraverso cui condurre le emozioni in un ragionamento logico di resistenza o di dubbio. Questo ovviamente a prescindere, non vogliamo fare un'analisi di colpevolezza o no rispetto a quello che stai proteggendo. Ovviamente non entriamo nel merito, se è innocente riesci a farlo, se è colpevole lo rendi innocente, non vogliamo fare questo tipo di analisi, insomma, non è questa la sede opportuna, rischiamo anche noi una denuncia assoluta. Senti carissimo, per noi parliamo spesso di cinema, ovviamente in questa trasmissione, di teatro, dove la voce è dominante in senso assoluto, anche se, come hai detto tu e come diciamo sempre noi, è l'elemento di comunicazione più importante del mondo. E allora io intanto saluto tutti gli ascoltatori di Radio 24, siamo in diretta, sono le 14.36 e 49 secondi qui a Radio 24. I numeri, vi ricordo, per collaborare, giocare con noi e parlare con noi, interloquire con noi, interfacciarsi con noi, è l'800-800 ovviamente, 240024 per le vostre telefonate in diretta, mentre per i vostri sms, sempre molto ricchi, sono il 349-238-6666 e ovviamente tutti i nostri social, da Facebook, Voice Anatomy, il Twitter, eccetera. Saluto dall'altra parte del vetro i nostri grandi autori Alessia Navarro e Damiano Fabiani, c'è anche Umberti di cognome. Stavolta il tecnico del suono è Alessandro, non Valerio, perché voi sapete che Valerio viene quando soltanto la sua Roma gioca fuori casa. Non è la dimensione giusta da fare. Saluto già dall'altra parte del vetro anche Gaia, che è la nostra caporedattrice. Già i prossimi ospiti si sanno a proprio in quando nella nostra regia. Di là c'è una delle voci più affascinanti del panorama del cinema e della televisione e del doppiaggio. E qui, come vi ho detto poco fa, c'è il grandissimo Roberto De Vita che ci prenderà per mano e ci porterà all'interno di questo mondo. Allora Alessia dall'altra parte mi sta facendo cenno di seguire le domande che sono state scritte appositamente, come autrice insomma ci tengono a tutto questo, sono soltanto un cervello non pensante. Allora, esame e controesame dei testimoni, la voce nelle domande, le emozioni processuali alla ricerca della verità. La domanda l'abbiamo pensata insieme, però non abbiamo pensato alla grazie risposta. Per avermi reso partecipe in tutta questa evoluzione, grazie. Però non abbiamo pensato alla risposta. In realtà questo è un aspetto che spesso nell'immaginario collettivo viene trascurato. Si pensa al penalista come il difensore dell'arringa, cioè del momento conclusivo. In realtà la parte più importante del processo penale, sia quello di cui abbiamo idea attraverso il cinema, cioè il processo americano, sia quello italiano, è la fase in cui si formano le prove, in particolar modo la prova testimoniale. Allora, il testimone è un uomo comune, può essere anche un testimone tecnico che siede su una sedia molto scomoda, sia che abbia ricordi netti, sia che abbia ricordi costruiti, sia che sia falso, ha una fortissima emozione. Allora ecco che la voce diventa nell'esame, cioè nelle domande che vengono poste inizialmente, o nel controesame, cioè nelle domande che vengono poste per valutare la credibilità del racconto del soggetto, la voce diventa il grande strumento per suscitare emozioni. E da lì, ovviamente, questa si guarda, signor Pininsegno, si parla di PNL. Signor Pininsegno, le ricordo che lei ha giurato di dire la verità. È responsabilizzante. Risponda. Sì. Signor Insegno, è difficile ricordare a distanza di tempo. Quindi adesso aiutiamoci insieme a ricordare quella sera. Sì. Ecco che la voce accompagna, la voce e le parole accompagnano senza, come dire, suggestionare, ma sicuramente andandosi a legare alle emozioni. Poi le emozioni sono comunicate attraverso il linguaggio del corpo e lì il penalista deve essere in grado di cogliere un disagio, una distrazione. E ovviamente con uno sguardo sempre rivolto al tribunale, alla corte d'assise, per comprendere dov'è che una cosa che è stata detta ha lasciato perplessi o è più interessante. Ed ecco che la voce quindi modula responsabilizzazione del teste, rassicurazione del teste e a volte anche inocula un po' di preoccupazione quando quello lo decidi tu come avvocato, ovviamente devi la scena, tu, sei tu il burattinaio. Assolutamente. Poi ovviamente è il presidente che protegge il teste, però è molto importante e significativo, anche perché una testimonianza non è mai un dato piano e lineare all'interno di un processo, perché un teste può manifestarsi più o meno credibile non solo per quello che dice, per la coerenza del proprio racconto, ma anche per come lo dice, e la voce e il corpo sono quello, sono aspetti che vengono valutati. Anche se poi ovviamente in tutto questo la programmazione neurolinguistica o la comunicazione non verbale non è legge, nel senso che dall'altra parte un testimone può avere paura, come un marito che torna a casa può avere paura di non essere creduto o la paura di essere scoperto, che le paure sono identiche in quel caso, e allora bisogna ovviamente navigare per capire se quella verità è vera o se quella verità è dettata da una bugia in corso. Lì devi essere veramente bravo. Ma lì non è tanto e solo la capacità del difensore. Il difensore deve mettere a prova di resistenza anche la tenuta della tensione che il test può esprimere a fronte di domande incalzanti. Quello anche se è un test a favore o a sfavore. Assolutamente. Anzi, a volte quando un test è a favore lo si può anche incalzare in modo fermo, proprio per dare credibilità, dire, assolutamente, alla perché si pensa sempre che il test introdotto alla difesa sia sintonico o simpatetico con l'imputato. Poi dopo c'è la sensibilità ovviamente del giudice, e in questo caso cambia la comunicazione, anche la teatralità nella comunicazione verbale a seconda del se ci si trovi di fronte a un giudice togato, cioè un tribunale in senso tradizionale, o una corte d'assise, quello che negli Stati Uniti è, seppur con differenze, la giuria popolare. Perché se c'è il giudice popolare nei nostri processi di corte d'assise per i reati più gravi, ovviamente la voce... Com'è la diversificazione, anche per aiutare le persone che sono abbastanza profane in questo, la differenza fra un processo americano, come siamo abituati poi noi a vedere, perché noi poi vediamo quegli ospedali americani, i processi americani, e poi ci lamentiamo perché nei nostri processi non vediamo quel dato situazione da fiction, o negli ospedali non vediamo quell'ansia e quella il frenetico che vedi invece nelle fiction, facendo capire insomma che la vita è un'altra cosa anche per loro. Ma la differenza più grande è data dal fatto che nel cosiddetto trial by jury, cioè esatto, il processo per mezzo della giuria statunitense nordamericano, la giuria è fatta solo esclusivamente dai giurati, e il giudice di professione, l'onorevole, il personaggio del film, il vostro onore, non partecipa alla decisione della giuria. La giuria è è popolare, la giuria è scelta, giuria è fra popolare, la gente, no? È scelta fra le persone, ci sono le regole che poi Grisham ha insegnato a tutti su come è possibile partecipare per i difensori alla scelta della giuria, esercitando un diritto di rifiuto di un giurato se questo ha delle caratteristiche di prevenzione, esatto, esattamente noti. Ma la cosa importante è che la giuria è separata dal magistrato di professione. Il giudice, in senso tecnico, è solamente l'arbitro dello svolgimento del processo. Certo. Ma poi, quando la giuria si riunisce e pronuncia il proprio verdetto, lo fa da sola. E in questo senso il giudice deve poi dare conseguenze ulteriori al verdetto di colpevolezza o non colpevolezza. Da noi invece la corte d'assise o la corte d'assise appello, che sono le due manifestazioni di processo con giudici popolari, invece sono partecipati, oltre che dai giudici popolari, dal presidente e da un giudice all'altro. E quindi ci sono due magistrati togati, e questo inevitabilmente, quando sono riuniti in la Camera di Consiglio, introduce un elemento di superiorità tecnica e esperienziale, e il giudice popolare tende ad essere, come dire, attento più all'indirizzo che viene espresso dal giudice di professione che non al proprio istinto e alle proprie valutazioni. Adesso fai rimanere con noi i nostri radioascoltatori, perché ci allontaniamo per un minuto soltanto, per cui da buon avvocato difensore di questa trasmissione invita le persone a restare incollate alla radio per qualche secondo in attesa, ti prego. Ascoltate, perché ci sono ancora cose interessanti da dire. Suona di minaccia tutto questo. A tra poco, Boys Anatomy è appena cominciata. Boys Anatomy. Eccoci, come promesso, rapidissimo, siamo tornati in studio qui a Radio 24, al mio fianco c'è ancora per un po' il Roberto De Vita, questo avvocato penalista su stile, io lo chiamo così, su stile americano, perché quando l'ho visto in azione ho pensato di essere di fronte a una puntata di una fiction, non pensavo che era un processo italiano. E ci siamo conosciuti così. Io ero l'imputato, ovviamente. No, scherzo, è stata un'occasione neutra per me che aver avuto... Ero io che ho fatto un provino per fare esatto. Per doppiare un avvocato un americano. Un avvocato, ma dopo ci sarà una persona alla quale ti potrai sottoporre la tua grande professionalità, la tua grande voce, perché poi riesci, vedi, a utilizzare la tua voce. Adesso sai che sei per radio, hai la percezione della tua voce e si sente che ce l'hai perché la stai utilizzando nel modo giusto davanti a un microfono. Non stai né strillando né parlando troppo piano, stai timbrando nella maniera giusta. Timbrare significa far capire se uno parla così, questo non è timbrare, ma timbrare, ecco, magari è mettere un po' di timbro all'interno della voce silenziosa. E tu la stai utilizzando in maniera... la stai veicolando bene, in maniera anche se vuoi prenotturna, anche se questa è una trasmissione che va in pomeriggio domenicale, però aiuta, le persone che ascoltiamo si fanno dei viaggi molto volentieri ascoltando questa trasmissione che è abbastanza musicale, anche perché la voce credo che sia la cosa più musicale, e ogni tanto ci addentriamo in dei mondi sconosciuti per capire meglio la funzione della voce in tutti i suoi meandri, in tutte le sue declinazioni. Oggi avremo anche un grandissimo etnomusicologo interessantissimo, uno studio della voce, vabbè, non voglio anticipare niente. Stavamo parlando con Roberto di questa diversificazione fra il processo americano con il magistrato distaccato che non prende parte alla decisione finale, invece questa giuria che vediamo sempre in questi film che si riunisce in maniera molto intensa e poi decide il verdetto, mentre da noi in Italia o in Europa, soltanto in Italia, com'è diversificato il giudizio? In Italia vedo che hai anche un libro vicino. Questo qui è un... Raccontami, portami per questo, mano dove vuoi andare. Anzitutto, Pino, ti ringrazio. Quello che hai detto prima mi ha regalato veramente un'emozione tra la tua voce e le considerazioni che hai fatto sul come io stessi utilizzando la voce mi hanno reso particolarmente felice. Prima di rispondere alla tua ultima domanda, sì, ci tenevo, ma ci tenevo perché, come hai visto, come hai anche introdotto in quella breve nota biografica, c'è un grande impegno per me, come anche e soprattutto per te, nel rivolgere alle nuove generazioni quelli che sono i valori della comunicazione, l'importanza della voce, una voce che non sia semplicemente un abito ma che vesta di corpo il discorso nei rapporti con le persone. Ed è molto importante, è tramite la voce, tramite il discorso che iniziano, si fermano le guerre, con cui si possono consolare le persone che soffrono, con cui si può convincere nella proiezione futura, come fa l'uomo politico in senso alto, o rispetto a un fatto del passato, come si fa davanti a un tribunale. E poiché molto spesso la cultura classica viene vista come una dimensione lontana, quasi polverosa, in una dimensione delle grandi velocità, la cultura classica sembra quasi una forma di rallentamento. Vorrei suggerire una lettura breve, piccina, sono 90 pagine, mm-hmm. È una breve monografia di Cicerone sull'arte di comunicare. Hai preso uno a caso. Uno a caso, dove l'elemento straordinario è l'accessibilità linguistica. Potrebbe essere, tu sei uno dei più noti docenti di public speaking, la comunicazione come strumento professionale. Serve che a tutti e a tutto, serve a tutti e a tutto, e come molto spesso le grandi guide siano state nelle loro sintesi assolute raccontate in un passato che poi ha costruito anche la dimensione del nostro paese. Vuoi leggermi qualcosa tratto da questo bellissimo libro? Com'è il titolo intanto di Cicerone? L'arte di comunicare. L'arte di comunicare. E, che è poi di pochi anni fa questo Cicerone, è un contemporaneo del Novecento. Sì, è un calciatore della Lazio. Lazio. Sì, non ci abbiamo. Sento, come difensore, a proposito, mi hai parlato di calcio della mia squadra. Come difensore io ti proporrei in tutti i sensi, perché c'è una grossissima crisi, soprattutto sulle sui centrali. Se sei un difensore centrale, tu sei un difensore a tutto campo. Sono tu. Un difensore, anche se poi ci sono quei... Sei anche un pubblico ministero? Beh, quando... Quello è un altro lavoro? Beh, allora, il pubblico ministero... È l'accusa, no? È più... sì, è l'accusa, il pubblico ministero è la funzione pubblica di chi accusa. Ma, e questo è l'elemento straordinario dell'essere avvocati penalisti, molto spesso il penalista, difendendo la vittima del reato, diventa l'accusa cosiddetta privata. E quindi di conseguenza muove le contestazioni, farà una discussione volta alla dichiarazione di responsabilità, di colpevolezza. Quindi, come non farsi proteggere da Roberto De Vito? Non è pubblicità. Troppo, no, ma sai, è affascinante. Noi siamo abituati anche nei telegiornali a sentire ogni tanto qualche avvocato, quello che poi è diventato un grande politico, lo sentivamo parlare nella sua lingua d'origine. E non è che funzioni sempre così, è vero, il dialetto assolutamente va salvaguardato, lo diciamo sempre, però in certe situazioni professionali va sicuramente studiato un italiano comprensibile, accessibile, anche con delle alternative vocali e di vocaboli che hai tu, come il mio amico Bonolis, che devo dire siete le uniche persone che conosco che hanno almeno 6 sinonimi per ogni parola. Io siete proprio un'applicazione vivente. Infatti, oltre al libro Cicerone, mi sono portato il dizionario dei sinonimi ai contrari per fare bella figura. Sono testimone di questo. C'è l'applicazione De Vita, se volete, sul vostro telefonino. Esatto. Cliccate e lui vi parlerà. Dimmi. È proprio come Cicerone inizia nel primo piccolo capitolo, la forza della parola. Io scherzo spesso con i miei figli dicendo che loro hanno l'una, la più grande, il potere della parola, che è legata al linguaggio e al discorso, e l'altro, forse perché un maschio ha una voce più profonda, il potere della voce. E allora Cicerone inizia con la forza della parola. Non c'è nulla di più nobile che riuscire a catturare l'attenzione delle persone con la parola, indirizzare le loro opinioni, distoglierle da ciò che riteniamo sbagliato e condurle verso ciò che apprezziamo. Questa è l'unica dote che presso tutti i popoli liberi e soprattutto negli stati governati in pace ed equilibrio ha sempre ottenuto riconoscimento e valore. E, sì, bellissimo. Cioè, se pensi quando è stato scritto, sembra un libro del Kotler di comunicazione. Mi consente di rispondere alla domanda che hai fatto prima a proposito di... Me la sono dimenticata. Ecco, ad esempio, questo è un altro elemento fondamentale da mantenere, molto importante nella professione, anche un po', vorrei dire, nella missione del penalista, quello di riuscire a riprendere il filo del discorso. Tu mi hai domandato se questa distinzione tra giuria popolare americana e giudici popolari sia solamente italiana europea. O statunitense. In realtà questo è il confronto delle grandi tradizioni. Allora, il processo americano, così come noi lo vediamo, ha una sua origine nel processo romano. E nei grandi processi che si celebravano nella polis greca, perché il problema di fondo è che la giustizia doveva essere amministrata da parte di una pluralità di uomini, no, è la dimensione, come dire, dispotica, non democratica, a individuare in un solo uomo la persona che decide. Nella logica statunitense, ma anche in quella nostra europea, l'idea della giustizia è amministrata in nome del popolo. Il perché le sentenze abbiano come intestazione in nome del popolo italiano o negli Stati Uniti in nome del popolo americano. È proprio perché nell'atto più importante, che non è quello di costruire la legge per il futuro, ma di stabilire la regola di responsabilità, che in alcuni casi può portare anche alla morte, la pena capitale come negli Stati Uniti, che questo avvenga attraverso una giuria di propri pari. Perché questo è l'elemento che si ritiene di garanzia nella decisione. Perché d'altronde chi è che può sapere che cosa è successo nel passato? chi è che può ricostruire esattamente? Noi accettiamo nel processo la limitazione del conoscibile. Noi avviciniamo un ragionamento di verità, ma non abbiamo la certezza che sia stato effettivamente così. Quanti processi negli Stati Uniti, i cold case in un senso o nell'altro, sono stati riaperti e hanno portato a delle conclusioni diverse perché, ad esempio, gli avanzamenti scientifici e tecnologici hanno fatto scoprire che quel che sembrava certo una volta poi non lo è più stato. L'esame genetico, l'esame del DNA, ha ribaltato moltissime decisioni, anche severe, negli Stati Uniti, perché si è scoperto che quell'imputato, le cui prove lo rendevano colpevole, in realtà non lo era. Ed ecco perché nel momento in cui si deve decidere della responsabilità di un uomo, dovrebbe esserci una vicinanza il più possibile alla giuria. Carissimo Roberto, è volato il tempo. Questo significa soltanto cosa? Che mi inviti di nuovo? Sì, no, ma non solo te, faremo veramente una puntata intera con la tua supervisione assoluta. Roberto, resterai anche qui vicino a me, perché verrà fra poco il nostro grandissimo ospite del doppiaggio del teatro e della televisione italiana. Voi rimanete incollati, Radio 24 è appena cominciata. Voice Anatomy. E come promesso, tornati qui in diretta a Radio 24 Voice Anatomy. Vi ricordo sempre i nostri numeri per partecipare alla nostra trasmissione. Non ho letto alcuni sms molto belli e vi ringrazio di tutte. Allora, ovviamente sono un po' in ritardo perché stanno parlando dell'ospite che ha preceduto, il nostro nuovo ospite. Qui mi dicono non è importante nel processo in USA il precedente, quindi le sentenze della Corte Suprema, Carmen, però Roberto è rimasto qui ma dovrebbe rispondere, ma ne faremo un'altra puntata. Gesù, l'artista della comunicazione, poi Cicerone, vedete quanto sono alti i nostri, non parlo dal punto di vista fisico. Mi sono laureato in giurisprudenza da poco e penso che anche il colpevole del reato più brutto abbia il diritto al rispetto della propria dignità. Assolutamente sì, complimenti all'intelligente trasmissione, eccetera eccetera. Beh, gli altri complimenti cerco sempre di evitarli, li accolgo sempre molto volentieri, mi diverto ogni tanto anche qualche piccola offesa, la leggo più volentieri, incredibile, mi faccio del male da solo, ma devo dire che proprio perché la maggior parte sono persone che stanno camminando insieme a noi ormai da 18 puntate o 17 puntate, non lo so, ma comunque è un bel viaggio, stiamo navigando in mare aperto. Al mio fianco adesso, alla mia sinistra, mi ha raggiunto il nostro ospite. Non voglio e non posso leggere la sua biografia, altrimenti finirebbe tutto il blocco per il suo primo intervento. Rimarrà con noi ovviamente un po' di più, ma è un grandissimo attore, attore a tutto tondo. Ovviamente non parlo soltanto di doppiaggio, dove è una delle voci più interessanti e più suggestive per le donne, per le nostre donne, e ovviamente devo accettarla questa situazione. Non sapevo che è nata a Catania. Nasce a Catania, non dire niente ancora. Il 9 marzo, posso dire l'anno? No. Come tutte le prime donne. No, ma sei giovane. Ma dai, santa miseria. Vi ripeto, è veramente lungo, ma lo scopriremo strada facendo insieme a lui, facendogli delle domande da dove è cominciato il suo percorso artistico, perché ha avuto anche la soddisfazione di fare un paio di grossissimi sceneggiati, quando gli sceneggiati, la fiction italiana era vista soprattutto da persone, da tanta gente, 10, 15, 20 milioni di ascolto, quando gli attori delle fiction italiane erano fatte soltanto da chi aveva veramente l'Empals o Raims, insomma persone dichiaratamente del mestiere. Non voglio offendere nessuno, tutti quelli che hanno l'Empals lo sanno, chi non ce l'ha lo sa perfettamente. Eh sì, sono un po' cattivello da questo lato, perché amo la grande professionalità, amo le persone brave, assolutamente le persone brave, e no le persone che utilizzano scorciatoie. Voglio far sentire il primo intervento registrato di un film e voi imparerete a conoscere questa voce strada facendo. Prego Alessandro, grazie. Sono persone che appartengono a categorie riconoscibilissime e quindi ti capita quasi subito di sapere uno com'è. Se poi è una donna, una storia d'amore, lascia perdere, ha un effetto spaventoso, da brivido, perché sai esattamente dall'inizio come andrà a finire. Ora, quello che mi piace tanto di te è che ti trovo assolutamente senza precedenti. ciò del tutto imprevedibile. Eccolo, era un piccolo monologo tratto da un film romantico dove si piange molto, che è Autunno in New York. La voce era quella, ed è quella, di Mario Cordova. Il personaggio in questione è il grandissimo Richard Gere. Benvenuto, notte, Richard. A tutti gli amici della notte. Quale notte? Quale notte? Va bene che abbiamo cominciato con la voce tranquilla e suadente del nostro amico Roberto, che è qui ancora con noi. Ci sei, Roberto? Sono sempre qui. Senti, e devo dire che ho veramente Richard Gere davanti. Esatto, però tu non sei, insomma, sbagliato tutto nella vita, vedi chi doveva farlo veramente. Lui, adesso fai un provino. Io l'avvocato? Esatto, forse qualcuno deve una... Grazie per i complimenti, no, ancora da Luciano e da tanti altri. Dimmi, no, no, no. La cosa che pensavo prima mentre ascoltavo le sue parole è che lui è in qualche modo il tuo avvocato. Sì. Quindi no, lui è l'avvocato di un... sei tutto, ma insomma sei l'avvocato di un doppiatore, io sono stato il doppiatore di un avvocato. Questa è bellissima. Nel senso che io ho un avvocato che è una mia carissimissima amica e lei mi utilizza per fare le sue segreterie telefoniche. Però lei è una donna. Lei è una donna, io sono il doppiatore di un avvocato. Hai doppiato mai un avvocato nella tua carriera? Immagino che sì. Voglia. Anche Richard, Scheggia di paura, faceva... Ah, Scheggia è bellissimo, bellissimo film. Bellissimo film, sì. Dove il grande, cioè, il ragazzo che è lì è uscito fuori, Edward Norton. Norton, sì, esatto. Fu candidato all'Oscar, da lì una carriera, sì, in grandissima ascesa. Esatto. Dove comincia la tua carriera? Questo anch'io voglio, perché noi abbiamo poi poco tempo per incontrarci, siamo amici, ma ci parliamo fra un anello e l'altro. Dalle barzellette raccontate alla nonna, credo che inizi lì. Ma dai. Beh, tu sei ragazzino, racconti una barzellettina, tutti ridono. Non capisci che ridono esclusivamente perché tu sei piccolo e non perché l'hai detta bene. Tu mi hai guardato con la faccia come per dire: tu, nonostante sia grande, ridono per lo stesso motivo, non ho capito. E quindi pensi che forse hai qualcosa in più, che hai la possibilità di... E se questa è veramente, credo che l'inizio sia proprio quello, quando credi di avere la possibilità di... come dire, di raccogliere l'attenzione degli altri. Tu, anche tu sei un figlio d'arte, non sei un figlio d'arte, immagino. No, cioè, nel senso, era un commissario di polizia. Ma cioè... dai, vedi, tutta intonata la puntata. A questo io punto sono catanese e parlavo in questo modo. Ah, quando, quando ho fatto il mio primo provino al Teatro Stabile di Genova, facevo così, insomma, parlavo in questo modo. Mi più calabrese così, mi più catanzaro. Il catanese, sì, che poi è il siciliano del cinema. Cioè, quando uno fa l'italo-americano, eccetera, si utilizza il catanese, cioè, sì, sì, non il palermitano, eccetera, ma quello di De Niro, eccetera, è catanese. È vero. Come il pugliese e il barese. Finto, che... anche lì, perché, insomma, sì, ovviamente, il suono catanese. Perché... il dialetto che si usa nel cinema, come tu ben sai, è sempre molto più accentuato di quello che nella realtà. Cioè, ma perché facciamo così? Ma nessuno parla così. Neanche i mafiosi parlano così. Neanche loro. Forse all'interno, in provincia di Enna, insomma, ancora qualcuno c'è in campagna, ma insomma in realtà non è questo. Però invece quello che se tu fai un siciliano che parla così, dice: no, scusa, un po' di più il dialetto. Ma non è vero, no, ma facciamolo. Ma e allora tutte quante parlano così. Quello è Marlon Brando che ha condizionato l'immaginario, sì, soprattutto del dialetto siciliano. E il De Niro è lui giovane che parlava, sì, ma si utilizza quello, non è vero, in effetti si esagera. E se ne accorgono poi le persone di origine di quel posto, dicono: che stai a dire, che stai a fare? Però nell'immaginario collettivo il siciliano è ma quello. Infatti nella mia così. Vita ho fatto delle cose assurde, ho fatto Ricordi, il personaggio di Ricordi milanese, sì, in mezzo a milanesi veri che tipo Adriana Asti, e io con un siccome al regista ero piaciuto perché avevo fatto Jeremy Irons in mi aveva visto in un film, ha detto: voglio La casa degli spiriti. Bravo, sì, La casa degli spiriti. Dopo lo ascolteremo. E disse a Pino Corizzi, grande, sì, personaggio che saluto nel caso fosse all'ascolto: voglio quella voce lì. Disse: ma questo è siciliano, deve fare Ricordi, che Milano non importa, voglio lui. E mi misero un coach milanese. Un coach milanese, e io parlavo anche, sai, a qua, che pezzo. Anche questo è esagerato, un milanese che non esiste più neanche a Milano. Sì, sì. Però è vero, è così, sì, perché poi alla gente deve arrivare quella. Oppure ho fatto provini in torinese, per esempio, mi ricordo uno con torinesi veri, Ho vinto io? Ma non per così. Sì, perché anche lì è torinese, nessuno parla così. Non ti conoscevo sotto questo aspetto. Dei dialetti? Sì, dei dialetti. È bello perché poi la trasmissione naviga proprio in questo mare. Abbiamo parlato spesso del dialetto, di come è l'utilizzo, di come cambia la voce a seconda del dialetto che stai facendo. Tu adesso, se ci fosse anche... Hai detto una cosa pazzesca. Sì, lo so, mi rendo conto anch'io. No, ma è una cosa che dico spesso e mi guardano tutti. Veramente cambia la voce. Sì, sì. Cambia totalmente anche l'espressione del corpo. Tu hai messo la bocca, adesso non abbiamo una videocamera che possa raccontare tutto questo, ma l'impostazione della bocca, anche quando si doppia, uno lo studio che fa all'inizio proprio sulla bocca dell'attore che sta doppiando, se c'è un po' di scucchia, se c'è là, se c'è poco labbro, se c'è il naso che come cambia la bocca, come attraverso la bocca esce il suono, parola, il suono, e quindi se quello c'è la bocca storta anche tu in qualche modo la devi mettere, perché sì, il suono come vedi esce diversamente, che questo poi è la tua voce vera, quella con la bocca, questa qui questa è la tua voce. Però non sapevo che tu navigassi attraverso... Tu nasci come attore comico a questo punto, perdona. Perché io, poi chi... io sono già un comico della vita. Io lo so, però magari la gente... Della, non nella, della... Dalla vita in su, però. Esatto. Dalla vita in... O dalla vita in giù, se... Io sono comico dalla vita in giù. Ma quello è un altro discorso. Però è vero, è insomma, vero. Nasci così, dalla barzelletta. Dalla barzelletta, poi 15 anni, improvvisamente mi chiama un'amica di mio fratello e mi dice: guarda, sai che il Teatro Stabile di Genova, allora vivevo a Genova, apre una scuola, e quindi mi presento un mese e mezzo di ritardo, vado al Teatro Stabile, 40 ragazzi già scelti che mi vedevano, io imbarazzatissimo, e questa mi dice: che cosa hai portato? Ma veramente non ho portato niente, perché allora che sei venuto a fare? E non lo sapevo che dovevo portare qualche cosa, insomma mi ha fatto leggere qualcosa, un pezzo di allora, erano altri tempi e qui si dovrebbe capire la mia età, ero ragazzino, giovane, 15 anni, era il muro di Sartre, avevo in mano, mentre leggi questa cosa. Ma tuttora dovrebbe avere il muro di Sartre in mano qualcuno per capire. Vabbè, però allora l'esistenzialismo era proprio la lettura. Certo. E leggo questa cosa e mi ricordo, leggo questa frase che finiva che a un certo spingerò il muro con tutta la mia forza, ma il muro resterà fermo come negli incubi. Stop! Ripeta questa frase come se stesse spingendo il muro. Come, scusi? Ma che è sordo? No, dico no. E allora ripeta questa frase come se stesse spingendo. E spingerò il muro con tutte le mie forze. Di più! E spingerò il muro con tutte le mie forze. Non ti dico quello che ho rischiato. Sì, di darti delle arie. Vabbè. E come è andato poi? È andato bene o mi è ha fatto fare un'altra cosa tremenda, tipo una traversata. Le immagini di essere in una spiaggia con sabbia bollente a piedi nudi. E per cui facevo questa cosa, metto che ogni volta, ogni prestazione che mi chiedeva era un che schifo, finché alla terza volta dico: vabbè, grazie, arrivederci. Dove va? E dico: vado a casa, e visto, cioè, no, lasci il nome. E da lì ho cominciato, e alla fine dell'anno ho fatto il protagonista del saggio. Avevo 15 anni e mezzo. Questo è il vecchio caro occhio della tigre che dice Rocky Balboa. La rabbia, la fame, la voglia di fare, nonostante tutto. E poi ti sei spostato? Da lì sei... Quanti anni avevi? Più o meno, eri giovane, sapevi? 15 anni e mezzo quando ho cominciato, ho fatto questo 3 anni di teatro stabile, poi mi sono fatto il mio primo anno da professionista in teatro, primo giorno di spettacolo a Trieste, e conosco una ragazza e mi innamoro follemente e decido di smettere di fare l'attore e di andare a vivere a Trieste. No, dai, e mi sono messo, perché sei qui oggi? E allora, mi sono, scusa, messo a vendere biscotti e pentole. Questo per una donna si fa queste da biscotti, cioè, e pentole. Hai capito, avvocato? Era un uomo della GBC. Cioè, mi chiedo questa cosa, lei è un uomo della GBC, prego, cioè, della Grissini Biscotti e Crackers. E tu a 18 anni hai deciso. Beh, ma poi Trieste è grande cultura teatrale, il nord-est italiano è ricco di teatro e della gente che va a teatro, soprattutto. È un posto straordinario. Triveneto. La più alta percentuale di abbonati. Sì, sì, ma tuttora è favoloso. Io devo dire, le tournée più belle nel nord-est dell'Italia, senza nulla togliere a tutto il resto della nostra bellissima penisola, ma il nord-est è vivo, nel senso, va a vedere Pirandello come Pino Insegno. sì, sì, sì, per fare delle estremizzazioni con la stessa intensità, la stessa voglia, e non criticando, ma non c'è la. Non c'è la storia dell'uomo, non vuole esserci, lo sanno, vanno a vedere un'altra cosa. È ricco il teatro, sì, è molto ricco. Per cui tu hai deciso, in una città dove si parla di teatro, di lasciare il teatro, di vendere biscotti. E vendere, sì. E com'è andata a finita, storia? Mi sembra interessante. Dopo aver fatto vari disastri, immagino che sia finita per i biscotti, perché visto che sei biscotti qui, biscotti aggressivi a tutti. Ti sei sfidanzata? Lei era di Trieste? No, è durata 5 anni. Ho deciso che forse ho cominciato a fare teatro lì, ho fatto radio lì con la Rai, ho fatto la voce del Gazzettino del Friuli Venezia Giulia con delle gaffe indescrivibili, parlando friulano, no? No, però il problema era che lì, insomma, ogni paese ha delle accentazioni diverse. Io, per esempio, io venivo da Genova, sì, e lì esiste un paese che si chiama Gemona, ma io non lo sapevo, ero appena arrivato, e quindi dicevo Gemona, e questi mi dicevano: ma come, non pensavo che Gemona, che insomma al Veneto, non può essere, se Gemona, vengo da Genova. E quindi c'erano i sindaci che mandavano telegrammi: cacciatelo via, torni a vendere biscotti nella sua città. Ma se posso, ti racconto un aneddoto. Sì, abbiamo ancora un minuto per Benissimo. Questo blocco, e poi abbiamo altri. Nel Gazzettino si leggeva la cosa più importante la domenica mattina, che era le previsioni del tempo. C'era un foglietto già con tutti i dati del tempo, che veniva compilato all'ultimo momento: temperatura, pressione, vento, raffiche di vento, pioggia caduta durante la notte. Questi chiamavano l'ultimo minuto, mettevano i dati, e là dove non c'erano, tipo se non aveva piovuto, cancellavano. Sì. Quel giorno arriva questo foglio, si erano dimenticati di cancellare, perché io leggo l'Istituto Talassografico di Trieste e comunica i seguenti dati: temperatura 27 gradi, pressione pari a un certo punto, pioggia caduta durante la notte, e mi accorgo che hanno dimenticato di cancellare. Lì per lì, frazione di secondo, non so che cosa dire, è come i bambini piccoli, dico una specie di fonema che era un 2 nella mia testa, ma una cosa. Vento, raffiche di vento, chilometri, e qua dico 0. Pensavo che era una, che è impossibile. Esatto. A Trieste, incavolato, esco, vado al bar, 7:15 di domenica mattina. Arriva, ci sono 2 ubriachi, perché Trieste capita spessissimo, già pieni di 4 per no, che dicevano: ciò che ha sentito che stanotte che ha piovuto, e io ero lì che prendevo il cappuccino: ma no, ma cosa dici? Ma sì, 2 millimetri. C'è questo che è ubriaco, quella cosa ubriaca che aveva fatto, l'aveva capita benissimo. Hai fatto benissimo anche questo dialetto, che non è facile per niente. Non sei un solito ubriacone, anzi, di più. Signori, a tra pochissimo, ancora con il nostro amico Mario Cordova e con il sussidio e l'aiuto del nostro avvocato Roberto De Vita, che intanto non se ne va, gli piace e sta qui con noi. A tra poco con Voice Anatomy. Anatomy. Che bello questo percorso che stiamo facendo insieme a Mario Cordova attraverso la nostra penisola, sia con i suoi dialetti, utilizzando la voce, che poi vi ricordo e lo sapete perfettamente, è l'elemento primario della nostra trasmissione. È bello scoprire la storia di questo bravissimo artista, anche conoscendo la storia di questa bella penisola, insomma, perché questo percorso che tu hai avuto, sentimental, professionale, attraverso l'Italia, da Catania sei andato a finire fino lassù, non è niente male. Leggo alcuni messaggi, anche se sono senza occhiali, sono tanti, devo dire che siete... Oggi siete molto attivi con i nostri SMS. Vi ricordo, riapriamo da oggi la nostra voice box, anche grazie a tutte le vostre segnalazioni. Voi sapete, la nostra voice box è quella che permette a voi, magari maggior parte profani di questo mestiere, di lasciare un messaggio, una poesia, una storia, un pezzo tratto da un film, e poi qualcuno di voi sarà scelto, come già è successo, per venire in trasmissione qui da noi, o ovviamente in un'altra sede di Radio 24 più vicina a voi, e avere la possibilità poi di partecipare a fine anno magari all'interno di un film, in una piccolissima parte. Ovviamente non prendiamo seriamente la possibilità di fare dei protagonisti, ovviamente soprattutto per chi non fa questo mestiere, però anche per chi lo fa la possibilità di mettersi in evidenza. Alcuni di voi hanno avuto anche la possibilità di venire al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio e stare in contatto con i propri beniamini, i propri eroi, la possibilità anche di parlare con qualcuno di loro per essere chiamati per qualche provino. Allora, scusatemi, qualche errore di grammatica, sono siculo italiano, mi scrive. Buongiorno, che sento parlare di doppiaggio da parecchie domeniche, guardo DVD in originale, soprattutto in inglese, spesso il doppiaggio non funziona. Leggo questo, che gli altri sono tutti positivi. In un film in cui si scherza sulla differenza fra inglese e americano, impossibile da rendere in italiano, ovviamente. Allora, come si comportano i doppiatori? Lo avete già detto tante volte, ma Carmen di nuovo. Ecco, che succede? Chiedono le diversificazioni che ci sono magari nei film americani e inglesi, o quando si incontra l'inglese e l'americano, o quando parla un cockney inglese, ovviamente non si può rendere. No, ma credo che ci sia la stessa difficoltà che avrebbe un traduttore che deve tradurre un libro dove c'è una problematica di questo genere. Come la traduci? Ma anche, non dico, ripeto, non il doppiatore, ma proprio lo scrittore. Io, certo, ogni volta che mi fanno domande di questo genere dico: ma nei libri che cosa fate? Cioè, voi nei libri avete capito che se io dico quella parola dietro c'è tutto un mondo? Sì, forse lì uno può mettere didascalia, nota e sette righe di note, ma ci sono delle cose che ovviamente perdiamo, perché certo, come nelle traduzioni, lo dico sempre, un libro, se tu sai lo spagnolo, García Lorca te lo leggi in spagnolo, certo, se non lo sai, certo, devi fidarti di una buona, cioè, traduzione. Possiamo davvero dire di aver letto Hemingway? Esatto. Possiamo dirlo? O sì, in Inghilterra hanno letto davvero Dante? Hanno letto davvero Dante? Ecco, forse se facciamo giustamente come dici tu il contrario, forse ce ne rendiamo ancora più conto. Che cosa hanno letto di Dante? In the middle of the work of our life, capisci? Cioè, I found myself. Si perde, cioè, purtroppo è una perdita. Quindi il doppiaggio, come ogni traduzione, è in realtà una perdita. È chiaro che se uno conosce la lingua, molto, molto deve seguire quella lingua. Però il doppiaggio può veicolare, come diciamo sempre, se è un buon doppiaggio, una buona traduzione, un buon adattamento, può veicolare e rendere omaggio al film in maniera giusta e veicolarlo attraverso persone che non potrebbero magari mai goderne, perché sono dei film veramente complicati. È uno anche strumento corrompente, corrotto, nel senso che corrompe. A proposito di corruzione, realtà, che ne dici tu, Roberto? No, come mi ha colpito e mi ha, devo dire, illuminato questo riferimento alla traduzione, perché molto spesso, soprattutto per i grandi classici, noi facciamo riferimento non tanto al grande classico che è quello, ma al traduttore, e quindi la differenza fondamentale in quel che andiamo leggendo è chi è che ha tradotto, e in questo caso è chi è che ha doppiato, anche in questa sfumatura, il grande doppiatore come il grande traduttore, e nella cinematografia, e penso anche con la differenza, se mi permetti, è che diciamo nella traduzione non c'è quel controllo di colui che opera la traduzione che c'è nel doppiaggio, perché da parte dell'autore, perché è uno che traduce e traduce da solo. Chi è che controlla il traduttore? Ci vuole il traduttore del traduttore. Ci vuole il controllo del traduttore, che non c'è. Non c'è un supervisor come c'è da noi del doppiaggio, non c'è un direttore, un responsabile, non c'è. Ma il supervisor è quello che noi dietro un vetro sta lì e fa gestacce. No, il supervisor è qualcuno che c'è. C'ha pure il mantello con la S. Ah, ecco. SV, supervisor. Mi manda volevo parlare con voi, un Arturo da Roma, 74 anni, e lascia pure il telefono. Caro Pino, prego te e i tuoi ospiti di non pronunciare mai le parole dopo, posto, risposta, 14, con la O chiusa. È sbagliato e di cattivo gusto. I toscani pronunciano con la O chiusa. I toscani pronunciano in maniera scorretta. La lingua italiana è ufonia. Aiutatemi. Perché? E si dice dopo, risposta, posto. Se Gaia vede questo numero di telefono, ovviamente non voglio dirlo io in diretta, di Arturo, proviamo a fare una telefonata e ci facciamo spiegare, perché i nostri radioascoltatori sono molto attenti e magari ci può aprire la strada verso nuovi mondi, perché io rispetto a questa cosa devo dire che ho un'opinione che farà forse saltare in aria il nostro carissimo io credo che il linguaggio è come la giurisprudenza, visto che abbiamo un avvocato qui con noi, cioè a un certo punto ciò che accade fa giurisprudenza, cioè se la prima volta è stato popolo, detto. La gente non so perché, dice sempre dopo, e dopo, basta, fine, chi se ne frega. In che senso? Il linguaggio è un mezzo, non è un fine, è un mezzo di rapporto. Se come una moneta, oggi decidiamo che la moneta con, adesso non mi ricordo chi c'è, ma insomma con Michelangelo, come era una volta, delle 100.000 vale 100.000 quel pezzo di carta, domani non vale più, e la stessa cosa è lì. Allora abbiamo il nostro amico Arturo, aiutaci Arturo, intanto buon pomeriggio e benvenuto a Voice Anatomy, Arturo, grazie della tua del tuo intervento. Spiegami un attimo, spiegaci per quale motivo è scorretto. Allora, questo il 90% o 95% degli italiani colti, colti pronuncia come ho scritto nel messaggio, cioè dopo, posto, 14. No, è sbagliato. Dopo, voi posto. Doppiatori siete sulla cattiva strada. Ok. attori in generale, piace. Proprio gli attori si pronuncia dopo, perché dopo. La lingua, no, si pronuncia dopo. Ok. Non si pronuncia imposta, ma si pronuncia imposta. Ah, guarda, mi fai felice perché io sbaglio sempre quando doppio, mi riprendono sempre. Gli attori che sbagliano. Glielo dico. Glielo Ed dico, è una glielo vita dicendo. Che sbagliate. E questo, come dice l'amico Cordova, è il popolo che ha dettato questa, no, questo il suono? Popolo, Pino, il popolo ha dettato per il 95%. O l'avevo aperta, dopo. Ha dettato posto, ha dettato dopo. Posso chiedere di dov'è? Di dove sei, Arturo? Di Roma? Tu sei di Roma? No. Sono innanzitutto un cultore della lingua italiana. Sì, quello sicuro. Di dove? Sono di Roma. Di Roma, sì. No, no, no, non voleva essere una limitazio il fatto di essere di Roma, insomma. Anch'io. La lingua italiana, forse non lo sapete, scusate se sono polemico perché sono Prego. Sono un pochino arrabbiato con certi attori e con certi doppiatori. Ha salvato gli avvocati. Se l'avvocato pronuncia dopo, sbaglia. Lo sa. No. L'avvocato non ha più coraggio non di aprire bocca. Più nulla, parla, parla dopo, dopo Parlo Arturo. Dopo. Quando pronunciate dopo, 14, siete semplicemente ridicoli. Accidenti. Durissimo, eh? Vabbè, Arturo. Io sorrido. Va bene, Arturo, guarda, sicuramente approfondirò educatamente questo discorso con i nostri amici che fanno dizione da tanti anni, come Gianni Dio d'Aiuti, eccetera, per capire un attimo da dove arriva tutto questo. Nel frattempo, Arturo, ti ringrazio, uno, di seguire questa trasmissione, che spero tu trovi interessante sotto altri punti di vista. E noi ci sentiamo dopo, se vuoi, o più tardi, se sei disposto. Ti abbraccio, Arturo, e grazie davvero. Beh, vedi, sono molto attenti. Adesso può aprire una diatriba interessante. Tutto Beh, questo. Sicuramente, però, è straordinariamente vero anche con il riferimento alla giurisprudenza, al fatto che la parola viva, a prescindere da se strumento fine, abbia una sua dimensione dinamica, esattamente come la legge, che non è semplicemente il dato fermo, freddo, formale, così la parola, anche eventualmente perdendo quella puntualità di pronuncia o di declinazione che aveva in precedenza. Ma questo è capitato e capita soprattutto con le lingue sottoposte a grandi trasformazioni, come la lingua inglese. Prima si faceva riferimento all'inglese degli inglesi e all'inglese degli americani. In realtà si stanno trasformando anche quegli inglesi per via delle altre contaminazioni linguistiche. Se pensiamo per esempio a certe parole che mi sono trasformate nell'arco del tempo, no? La parola mannaggia siciliana viene dal latino malo anno aggia, ti venga una cattiva annata. Quindi si le mandavano gli accidenti da una parte e dall'altra, cioè, malo hanno aggia, senti com'è difficile, quante aperture e chiusure di bocca, e poi è diventato nel tempo malannaggia perché era più conciso, mannaggia è diventata la parola definitiva, che è molto più semplice. Mannaggia, pensavo fosse romano, mannaggia, no. Mannaggia la miseria. Quindi vedi come si trasforma, perché è l'unica cosa che appartiene alla gente, il linguaggio, per la miseria, chi se ne frega, no? Cioè, qualcuno ti ringrazio, rende felice ascoltare il siciliano come lingua nella tua trasmissione. Vi saluta Luciano e ciao, tanti Luciano. Altri complimenti per questa situazione. Va bene, grazie. Stavi dicendo, Roberto? No, stavo dicendo, mi ha fatto pensare a questo mannaggia, avrei detto, ma probabilmente sbagliando e pensando all'etimologia, al manus agere del manager, no? Il fatto di un'imprecazione rivolta a chi deve agire di manualità e non di testa, quasi fosse un dato discriminatorio nei confronti di quella persona. Mannaggia come il riferimento a un lavoro, a una professione manuale. Se pensiamo ad esempio a molte parole di cui si discute, si dice manager o manager. Manager negli Stati Uniti, da noi dovrebbe essere manager, perché è una parola che ha una sua radice latina. Come diceva lui, giustamente media e non media, perché esattamente, è latino esattamente. Anche quello. Mandiamo un contributo e andiamo in pubblicità e torniamo subito con i nostri grandissimi ospiti. Che mettiamo? Un Patrice Weiss, dannata, il duro di Rodaus, sempre con la voce del nostro Mario Cordova. Tra poco con Voice Anatomy. Ve lo dico chiaro e tondo. O fate a modo mio o fate fagotto. Se qualcuno vuole andarsene, lo faccia adesso. La gente che vuole divertirsi non va in un locale dove rischia la pelle. Questo posto è mal frequentato. Troppi attaccabrighe. Troppi adolescenti quarantenni. balordi, ubriaconi molesti, ragazzotti imbottiti di porcherie chimiche. Sì, hai perfettamente ragione. Ma molti di quelli che vengono qui non li fermi uno contro uno. E neanche due contro uno. Non preoccuparti. Quello che dovete fare è seguire tre semplici regole. Uno, mai sottovalutare il proprio avversario. Aspettarsi sempre il peggio. Due, cercare di portarlo fuori. Mai scatenare una rissa all'interno del locale, quando se ne può fare a meno. E tre, gentilezza. Ma come si fa? Se qualcuno ti si pianta davanti e ti chiama palla di merda, tu pensa che si sia presentato. Voice Anatomy. Bentornati, Voice Anatomy, le 15:30 o è 30, come si dice? 30 o è 30? Non lo so. Ho paura di parlare da quando Arturo è intervenuto. Non ho idea. Oddio mio. E sempre Mario Cordova con il nostro avvocato che ci sta accompagnando, ma è successo qualcosa con i nostri ascoltatori, insomma Roberto De Vito è pronto a difenderci. Altri messaggi, lo stavamo leggendo prima, sempre molto attenti i nostri radioascoltatori. Enrico da Bosco Reale dice: ciao Pino, il tuo ospite ha interpretato per caso anche Hercules. Sì, complimenti Enrico. Allora, beccato anche Hercules, no, non sfugge niente. L'altro messaggio un po' più arzigogolato: dire che nella lingua il suono possa essere cambiato con l'uso, il concetto di giurisprudenza o dell'intervento dell'ascoltatore, è come sostenere che uno spartito di Bach possa essere modificato nel tempo in base al fatto che milioni di persone lo fischiettano in modo diverso da come è stato scritto. Beh, dice? Oddio, mi sembra insomma un esempio un po'... No, l'esempio è divertente, nel senso uno fa, non fa più allora diventa così la quinta di Beethoven. Diventa quasi facile la difesa, perché anche qui l'interpretazione data dal musicista rispetto al medesimo spartito fa una grande differenza. E tant'è vero che noi ascoltiamo Bach, Beethoven, Mozart con un determinato musicista e possiamo avere i grandi musicologi, tra l'altro il professore Guy Duc, che è spesso ospite di questa emittente di Radio 24, indica proprio nella diversa interpretazione una maggior aderenza a quello che era il messaggio originale o un elemento anche innovativo. Ma questo perché è proprio il dato dell'interpretazione, che possa essere la voce, la musica, lo scritto, traduzione, doppiaggio, interpretazione musicale, ha poi un significato dinamico. Ragazzi, oggi non si potete penetrarci. Abbiamo chi ci difende a spada tratta, ma abbiamo anche un grande artista. Io mi ricordo ancora, vabbè, poi parleremo della tua carriera anche televisiva importante, degli sceneggiati che hanno anche segnato veramente un pizzico di storia della televisione italiana. Però noi normalmente, quando viene un grande professionista, gli diamo qualcosa da leggere, i nostri autori si divertono a giocare con quella voce per raccontare qualcos'altro. E non so che cosa ti abbiano dato i nostri autori, Alessia. Non ti dico Damiano, che cosa. Però mettiamo anche una musica degna. Grazie. Per questa cosa, dove la voce di grandissimi attori, ed è lui un attore stesso molto bravo, interpreterà sicuramente non un passo tratto da Sartre o da Pirandello o da Ionesco, ma qualcosa di più leggero. Prego, Alessandro. No, ma che cos'è? Ma che cosa vara? Va bene che la voce di Richard è sensuale. Sì, no, bella, bella, bella. Va bene, vai. Bella, perché il tema, perché questa cosa è una cosa che vi invito a fare, cioè questa. Lava con cura le ostriche sotto acqua corrente, sfregando le valve con una spugnetta. Le valve. Aprite. Aprile una alla volta, introducendo tra le valve la punta di un coltellino. Esercita una leggera pressione rotatoria verso l'alto e fai scorrere la lama per tutta la lunghezza dell'ostrica. A mano che esegui questa operazione, raccogli con cura in una ciotola l'acqua di mare contenuta nelle valve inferiori. Quindi filtrala e tienila da parte. Stacca delicatamente i molluschi delle valve e pulisci queste ultime sotto il getto dell'acqua corrente. Emulsiona l'acqua di mare filtrata con l'olio di oliva e il succo di limone e profuma con una generosa macinata di pepe. Sbuccia gli spicchi d'aglio e tritali finemente. Adagia nuovamente i molluschi nelle loro valve. Cospargi con erbe aromatiche tritate l'aglio e il pangrattato e irrorali con l'emulsione preparata. Versa sulla placca del forno il sale grosso e disponi sopra le valve. Gratina in forno preriscaldato a 230 gradi per 5 minuti. Quindi sforna e disponi 3 ostriche in ogni piatto individuale, completando con gli spicchietti di limone e servendo immediatamente in tavola. E quindi magna. Beh, se le ricette fossero presentate così in televisione, visto che si fa ormai grandissime trasmissioni, sono solo sulle ricette fatte così, uno ti invita veramente. A parte che le ostriche sono poi, no? Stimolo, dicono che sia un piatto che possa stimolare meglio di qualsiasi altro medicinale. Io non ne mangio le ostriche, non ci riesco. Ne prendi medicinali? No, neanche quello. Ringraziando ancora il cielo. Grazie Mario, che bello. Ma noi si prestano dei grandi professionisti a giocare ironicamente con le intenzioni. Quello che dice, vedete, come dice anche quel grande Gasma, poteva leggere anche l'elenco del telefono e sembrava una bellissima poesia. Arrivano tantissimi messaggi, sarebbe bello proprio aprire delle dirette perché si sono infervorati per quanto riguarda la lingua e la voce. Il nostro amico da Forlì dice, chiedeteli come direbbe, perché direbbe si dice con la E aperta, zucchero, magari manco quello con la E, si è arrabbiato, no, stretta, in questo caso aperta, c'è il rischio bene che sia la Z. E se il professorino andasse a Forlì, non è di Forlì lui, ma gli verrebbe un accidente, dice. Pino, forse il professore intendeva che siccome in italiano non esiste un italiano parlato, ma un italiano regionale parlato, perciò il doppiatore deve avere un italiano perfetto, dice Marco. Per nostra grandissima fortuna, il così fa tutti, almeno qui, non può avere la meglio. Già l'accento romano impazza ovunque. E cioè, sono tante, la bellezza della nostra lingua, la maiuscola. La musicalità, la poesia sono strettamente collegate anche al rispetto di regole antiche che prescindono appunto al suono di dopo 14 eccetera eccetera. Insomma, siete tanti e siete molto, è interessante che ci seguiate con questa intensità e con questo grande affetto. Mi piace molto questo dualismo, trialismo, quadrilismo, non si dice, non si dice trialismo. Vorrei approfittare, visto che siamo assolutamente in una splendida radio, in una radio colta. Perché mi guardi con quello mi ha fatto vedere in mente una cosa il nostro avvocato che diceva a proposito dell'interpretazione sul discorso di Bach, Mozart si dice Mozart eccetera, il doppiare in fondo è leggere una partitura musicale già scritta da un altro che è l'attore, cioè è tutto, se ci pensate è tutto stabilito, cioè lui ha deciso che quella battuta ha quel tipo di valenza e anche quanto, cioè per esempio è arrabbiato, ha deciso che è arrabbiato e anche deciso quanto è arrabbiato, quindi non è che puoi fare cose diverse, la faccia in questo caso è obbligante, tu sei costretto a seguire quella faccia, ma all'interno di questa partitura così stretta, così quasi costipata, dove c'è scritto tutto, tempi, ritmi, modi, velocità, intensità, è tutto all'interno di questo, c'è uno spazio di creatività che è non è spaventoso, è cioè la stessa attore che ha fatto quella stessa cosa con quella rabbia, con quel ritmo, fatta da Pino, fatta da me o fatta da un altro, sono tre cose completamente diverse. Solo che si percepisce nell'interpretazione musicale o anche nella traduzione, forse perché sono dimensioni già colte per definizione, qualcosa che si coglie meno nel doppiaggio. Il doppiatore non è semplicemente persona che presta la voce ad un attore utilizzando la propria, perché c'è anzitutto la lettura della voce del soggetto che viene doppiato. La voce poi si deve adattare come un guanto perfetto a quel personaggio, e un po' scollare. È una voce che deve seguire le emozioni che comunica quella determinata. È un traduttore di concetti e sentimenti, il doppiatore. Sì, ma poi anche l'attore quando legge un copione, quella lì è una partitura, insomma, anche lì il regista decide, però è un po' però più larga. Tu capisci che lei sono solo parole, no? E all'interno, come noi sappiamo, spero di non citare il nostro straordinario ascoltatore, ma insomma, la parola sì, ha un significato, ma è l'intonazione che c'è dietro che ne dà la vera valenza. Io posso dire ti amo e dire esattamente l'opposto. Mi ami, la Madonna, ti amo. Però sì, dopo, io non posso vivere senza di te, eppure dopo sto avervi, dicendo esattamente l'opposto. Dopo avervi difeso, accidenti, ho trovato due righe, sempre nell'arte di comunicare di Cicerone, a proposito della bellezza e del discorso. Qui dice, scusami, siete emozionanti, grazie. Mi dite come si legge cromosoma con la S morbida? Ormai si è innescato una adesso, reazione a catena. Abbiamo perso tutte le nostre certezze. No, tutte. C'è qualcuno ha detto mi hanno rovinato il piatto con le ostriche. Vabbè, ma quello è un gioco, amico mio. Stai tranquillo, le ostriche rimarranno buone per come vorrai mangiarle tu. Solo magari accompagnate con una voce del genere, se ti farai doppiare di fronte alla tua fidanzata con una voce del genere mentre mangiate le ostriche, vai sicuro. Va bene, troppa voce creata, poco naturale, danno l'impressione di falsità. Sì, certo, quando una persona è sicuramente così, anche nella vita quotidiana, è falso. Che dicevi? Stavo leggendo due righe. Due però, Due, a proposito della bellezza del discorso di Cicerone. Quale attore più efficace nell'imitare la realtà di un oratore che affronta direttamente la realtà? Questo perché prima avevo l'ho difeso... L'ho detto anch'io questa cosa un paio di volte. Eh sì, è vero, lo ricordo. Adesso lo ricordi, no? Assolutamente. Beh. Ed è il doppiatore... la persona che rende accessibile spesso anche realtà distanti, a proposito della interpretazione degli attori stranieri, perché poi devono essere accessibili. Poi tu sei un grandissimo amante di tutto questo. Sei un, sono un appassionato. Un appassionato. Ma torniamo anche al nostro grande Cordo. Cordo, io parlavo prima di uno sceneggiato importante, almeno per una certa generazione, che è La storia di Anna, che fece un successo clamoroso. Era negli anni 80, 1981 proprio, uscì questa cosa, che era la prima volta che la Rai parlava di un problema così scottante come quello della droga. Sì. Anna era una ragazza drogata e io facevo questo suo fidanzato, questo coprotagonista maschile che cercava, era innamorato pazzo di lei, che cercava inutilmente, purtroppo disperatamente, di salvarla. E fu un'esperienza pazzesca, intanto nel girarlo. Non si quante puntate erano? Perché poi erano quattro puntate a 90 minuti e noi giravamo con un cellulare di polizia che ci seguiva ovunque, perché ovunque andavamo, allora una radio di cui non cito non voleva, erano gli anni 80 ancora, ancora un fattore politico, che la Rai si occupasse di una problematica come questa, e quindi annunciava, cioè, oggi stanno girando in via a Milano lì, e quindi arrivavano un centinaio di ragazzi arrabbiati, diciamo così, e quindi e noi giravamo con un cellulare di polizia. Questo non sapevo, questa sì. E fu un'esperienza pazzesca anche da un punto di vista di risultati, nel senso che i risultati furono altissimi: 17 milioni e mezzo la prima puntata, sì, 22 milioni la seconda, sì. L'ultima, cioè impensabile. È vero che non c'era alternativa, cioè c'era solo la Rai nel 1981. Sì, è vero, però c'è una grande qualità e grande attenzione nonostante non ci fosse l'alternativa. E questa è la cosa che mi dispiace ogni tanto, che adesso, proprio perché c'è alternativa, ci dovrebbe essere ancora più qualità, perché uno dovrebbe vincere con la qualità sull'alternativa. Ma la qualità non si inventa. No, quello assolutamente. C'erano degli autori. Ma tanti soldi ci starebbero anche, però gli autori erano autori. Autori, ovviamente, non è un'offesa generalizzata, massificata, perché sarei un superficiale. Lo dico a ragion veduta. Adesso trovi più che altro... spesso delle persone che fanno delle scalette più che degli autori, da qui a qui entra e canta, da qui a qui dice qui, non si sa cosa succede. Infatti, tu lo sai, ci troviamo spesso di fronte a dei testi e soprattutto delle battute, e noi che lavoriamo di battuta da tanti anni, diciamo, questo è indicibile, posso cambiare? Chiedi il permesso di cambiare, di renderle un pochino più umane, perché poi veramente scrivere di dialogo è una cosa non semplice, insomma. No, è complicato, ed è questo, insomma, questa grande professionalità si dovrebbe recuperare. Ovviamente, ripeto, ci sono bellissime fiction, ci sono bellissime trasmissioni, ma in una situazione del genere così larga, proprio forse perché si è allargato troppo, allora forse si è annacquato un po' troppo il prodotto. Si rincorre un prodotto, si allarga, de antimafie, e tu ne hai fatto pure tu qualcuno, eccetera, sì. Ce ne stanno tanti, non sai più chi è che combatte cosa. Ma si è un po' perso la qualità del lavoro in genere su tutto, eh. Io vedo anche che, il nostro, sì. Che sì. Chiamo un idraulico e dopo 3 giorni che ha fatto la... Cioè, riperde il rubinetto. Si riperde immediatamente. Peggio della squadra mia, credo, dici. Che sia una cosa dappertutto. Non so come sono i risultati, sono, nessuno mi fa delle facce dall'altra parte. Non voglio sapere della Samp. Nessuno. Sto registrando. Sì, sì, tanto a me me lo diranno che poi c'ho il collegamento da tutti in campo, per cui lasceranno la mia squadra per ultima perché la tengono, me la spizzano, poi c'è anche la Roma che gioca, per cui c'è questo dualismo che cerco di bypassare almeno la domenica. Faccio finta di niente perché questa trasmissione mi concede il lusso di fare un altro tipo di percorso. Abbiamo finito anche questo blocco, se non sbaglio, vero caro Alessandro, ma rimani ancora con noi il nostro Cordova. C'è un altro blocco, il nostro amico Cordova? Non c'è, questo è l'ultimo. Allora vi abbraccio. Lo teniamo? Che vuol dire lo teniamo? Che non è mica un cagnolino abbandonato per la strada. Ah, continua con noi anche al prossimo. Va bene, allora abbiamo perso un'ora di tempo per decidere se lo teniamo e come lo chiameremo. Lo chiameremo dottor Cordo, il dottor De Vita sta ancora qui. Voi rimanete lì perché lo sapete. Voi Anatomy, siamo a metà percorso. A tra poco. Voice Anatomy. Puntata veramente ricca, interessante, tridimensionale questa di Voice Anatomy quest'oggi, perché come non mai si è creata una osmosi pazzesca con i vostri sms, le vostre, anche i vostri interventi telefonici intorno al mondo della voce. Sarà che anche gli ospiti di oggi creano tutto questo. Ancora al mio fianco è rimasto e lo chiameremo ancora Mario Cordova, dall'altra parte il nostro avvocato penalista affascinato dal mondo della voce è qui con noi, e dall'altra parte ho la fortuna di avere un caro amico che è anche un grandissimo attore ed è una cara persona, veramente. Ogni volta ci dicono a noi quando ci incontro per la strada: ma tale XY è veramente così? Com'è realmente? Beh, bruttissimo, però ecco, ed è bello riempirsi la bocca invece con dei complimenti sui colleghi. Io amo tantissimo parlare bene dei colleghi bravi, perché non è l'invidia di quelli bravi, l'invidia della creano quelli non bravi che arrivano a certi obiettivi. Lui è bravo, ha raggiunto degli obiettivi ed è ancora still growing, come dicono gli americani. Alessio Boni, pronto? Ammazza, cheissimo. Hai capito? Capito? Ho finito, non diciamo più niente. Esatto. Mi rovino adesso. Basta. Adesso devo solo togliere la maglietta e uscire dal campo. Dopo un gol uscire, è fuori. Dopo che... ciao, dopo... buongiorno, buonasera, buon tutto. Ciao, Alessio. Ti salutano, qui i vocioni al mio fianco. Ammazza, che voci. Questi possiamo sceglierli per farci doppiare, casomai. Abbiamo degli amici. Ma tu non ne hai bisogno. Stiamo a posto per il futuro. Se dovessimo perdere la voce, li scegliamo. Ciao, Pino, e complimenti. Guarda. Grazie. No. A te, Alessio, tu sei in tournée in questo momento. Ti ho beccato dove? A Barletta siamo. A oggi Barletta. Abbiamo la pomeridiana alle 18. Sì, sì. Dove sei? In che teatro? Con Alessandro Haber. Esatto, salutalo tanto. Teatro bellissimo, Teatro Curci di Barletta. Bellissimo, è vero. È veramente una bomboniera di 500 posti all'italiana, con bello. Due sipari ancora che scendono. Ci hanno fatti vedere la diffida di Barletta, è un altro. Ancora fatti a mano del 700, meraviglioso. Di ad Alessandro di non toccarli, no, Alessio. No, gli ho detto, ecco. Di non fumarli vicino. Esatto. è l'incubo di tutti i vigili urbani di sì, Italia. Lo sa, non si fila nessuno. Noi dovremmo averlo pure lui, perché a proposito di voce, insomma, non puoi non chiamare... Vigili del fuoco, volevo dire. Sì, vigili del fuoco. No, certo, vigili del fuoco. No, vigili del fuoco, quando si avvicina dentro... No, signora, non si può... Io ho fumato in tutti, non mi dico... È meraviglioso. E lui lo ami, Alessandro, è così. Che state rappresentando, Alessio? Io lo so, ma per dirlo anche ai nostri radioascoltatori. Siamo in giro da 3 anni, adesso sì. Stiamo per finire. È Il visitatore di Eric Emanuel Schmidt con la regia di Valerio Binasco. Mm-hmm. Sono due pazzi in scena e sarebbero Freud e Dio. Niente. Dio chi è? Scusami. Dio non lo poteva fare, Haber. Non lo poteva fare, Haber. Non è Dio, vero, Haber? Tu mi tranquillizzi su questo, perché altrimenti sarà la scomunica, arriverà pesantissima. Già Freud. Freud è tosta, comunque. Lui fa Freud e io faccio Dio. Come, è divertente, E come dice Woody Allen, mi sembri Dio, beh, a qualcuno dovrò pure ispirarmi. Beh, mi devo ispirare a qualcuno. Che cosa? Ma 3 anni, un bel successo. A Roma siete già stati? Siamo già stati al Quirino, sì sì, abbiamo fatto 2 anni fa al Quirino e abbiamo superato 3 giorni fa la 200ª replica, pensa un po'. Ma è bello, vedi, il teatro, ed è d'accordo anche il mio amico Cordova, credo che sia il lavoro vero dell'attore, dove tu sei nudo, nel senso metaforico del termine, ma dove tu alla gente non puoi fargli perdere tempo. Già il fatto di fargli togliere la macchina sotto casa al parcheggio che non troveranno mai più, cercarne uno davanti al teatro, tornare se a casa, troveranno. Sembra una stupidaggine, Alessio, ma lo sai che all'ultimo è così, ti odieranno per sempre. Ti odieranno per sempre. No, perché il teatro non hai possibilità, mentre il cinema, che ne so, oggi con il, non so, stai a casa, Sky, sì, streaming, cose, ti dicono, guarda, non ho voglia di uscire, ti metti lì, ti piace anche con la tua signora, devi andare a letto, ti vedi un bel film, chi se ne frega. Teatro devi alzarti, vestirti e andare, esatto. Hai ragione. Prenotare. Però poi sei senza rete, è meraviglioso. C'è senza questa rete. Sinergia tra il pubblico e te, questo filo rosso. Una sorta di terapia di gruppo ogni sera, almeno per quanto mi riguarda. Ma è così, per noi attori è così, assolutamente è così. Così. È così. E poi questa recitare dall'inizio in sequenza fino alla fine. Bravo. Mi sembra questa la cosa meravigliosa. Bravo. Non cominciare dall'ultima scena. Mamma poi... mia, che se devi piangere alla fine perché il padre è morto, ti arriva naturale. Invece, esatto. Piangi, ma come è già morto? Sì, giriamo prima la fine perché non poteva il padre. Io mi ricordo La meglio gioventù, questo è un aneddoto, però insomma. Dai. Meglio Gioventù, ricordiamo un grandissimo film di Marco Tullio Giordano che poi ancora ti ha lanciato nella stratosfera, sì, caro Alessio. Che bella esperienza. Grande film, no, sì, bravo. Per via delle location, la prima location, te lo posso garantire, era a casa di Matteo Carati. Io ho fatto il suicidio, al terzo subito. Giorno. Al terzo giorno. Cioè, era finito tutta la sagra, io mi dovevo ammazzare, cioè dovevo esatto. Visitare tutto quello. Non il sapevo balcone, ancora cosa il balconcino. Dal balconcino, sì, okay. Al terzo giorno. Sì, non è facile perché no, tu poi... No, cioè... vabbè, ma se anche di peggio ci mancherebbe, però è proprio slacciato il cinema. Io credo che il cinema sia davvero del regista, mentre il teatro è dell'attore. È dell'attore, sono d'accordo con te. Infatti, come diceva Lorenzo Olivier, io prendo $1 milione a film, ma $900.000 sono per le attese. Sono, sono per le attese. Il resto è per quando recito, ma sono le attese che ti uccidono. È vero. Mi ricordo quell'aneddoto che mi raccontò una volta, e lo ricordiamo, un grandissimo attore, Luca De Filippo, che ci ha lasciato da poco, sì. E parlava di suo padre. Il suo padre, allora, aveva 18 anni, ha fatto un provino, è venuto a Roma senza figlio, lui faceva già parte della compagnia del padre, eccetera, e l'avevano preso per fare una piccola parte in un film. Sì. Allora io, ma come ha già fatto? La micromica, la macchina l'ha presa, il primo piano, cosa ha già fatto? Dimmi, andavano un consiglio. E il papà, accattate una seggiola. C'ha ragione. E aspetta. Secondo me è geniale. È geniale. Sì, perché molta gente non lo sa, no? Che un set, tu in un giorno, in 10 ore di lavoro, giri due minuti di montato, cioè 2 minuti di film, esatto, ma già la fiction leggermente di più, già vai sui 3-4-5 minuti forse, ma in 10 ore, per cui l'attesa è snervante, è lunga, è fastidiosa, e cambia le luci, e cambia l'altra parte, rifallo, è vero che ti aiuta. Per incidere 30 secondi di scena poi. Esatto, poi dopo lo devi fare magari 10 volte, 15 volte, ma è sempre quello, e poi dopo aspetti altre 3 ore perché devi fare il cambio luce, vabbè. Gli addetti ai lavori lo capiscono, magari, ma no, anche le persone tutto... poi gli piace navigare all'interno di un sì. Mondo misterioso come questo e capire cosa accade, e rimangono anche affascinati. Dicevi, hai parlato della Meglio Gioventù, che è stato veramente un grandissimo trampolino, anche se tu venivi già da esperienze importanti, cioè, ma quella fu proprio la sliding doors della tua vita, sì, insomma, il momento sì. del cambiamento. Poi hai fatto altri 2 film importanti con Marco Tullio sì, Giordana. Quando sei nato non puoi più nasconderti, sì. Sangue pazzo. Sangue siamo pazzo. Sempre andati a Cannes, tra l'altro. E sì. Guarda, questo dimostra il fatto che veramente non è tanto il mezzo da demonizzare, ghettizzare, no? C'è sempre questo un po', non lo so, gerarchia strana nel nostro mondo, e tu lo sai benissimo, Pino. Allora, il teatro, serie A, cinema, serie A meno, televisione, serie B. Sì. E dipende come lo fai. Io ho visto del film bruttissimo, ho visto del teatro bruttissimo, ho visto della televisione fantastica. Esatto. Marco Tullio Giordano ne è un esempio, erano 4 puntate è per la Rai, siamo andati a Cannes e abbiamo... popolato tanti film di tutto il mondo. Sì, io prima parlavo di fiction, di tante volte dipende come vicino a te uno non trova, no, vicino a te Alessio, ma vicino non trovi sempre persone degne di Empals. Però ecco, tu hai fatto un esempio di televisione fantastica, lo dico io, non lo dici tu, ma lo dice e l'ha detto anche la gente, e ne parlavamo l'altro giorno in calzoncini e maglietta, i complimenti. Ma che fisico che c'hai ancora. Ma smettila. E l'intensità. Dei quadricipiti anche Rummenigge. Bravo, ti ringrazio, tanto la radio nasconde tutto. Diciamo la verità. Però il tuo, a parte il Caravaggio, ma il Walter Chiari, che il coraggio che hai avuto a rappresentare Walter Chiari in quella fiction straordinaria è stato enorme come attore. Non so quante domande ti sei fatto prima di accettare l'incoscienza, perché la follia, Pino. Io tutte le e poi hai vinto a però. Torino, sì. E dicevo, ma perché ho firmato sto contratto? Perché era un numero uno, tu lo conosci meglio anche di me, di sì, sicuro, no, perché l'avrai studiato, perché mi hai detto, sì, che ti sei anche ispirato per, sì, le tue, sì, cose, tantissimo, assolutamente, no, sì. Ma io penso che tutti, quando ho visto Fiorello me l'ha detto, quando ho visto anche Panariello, ah, mi, sì, ha detto, dai, che era un numero uno per voi, proprio di questo enorme. Set, di questo enorme. Ed era uno che ha fatto, io ho scartabellato tutto, che ha fatto sempre ridere, la cosa più bella, Pino, e bisogna prendere veramente esempio da uno così, ha sempre fatto ridere, sbudellare, senza una volgarità. È vero, mai una parolaccia. Non ha mai, mai fatto una battuta sul sesso, sulla parola, mai. Tutto di filosofia alta sull'uomo, sul, ma guarda, in un modo straordinario, questo è veramente un esempio grande, ed era il numero uno. Sì, sì, lo contestavano per i suoi ritardi, per la sua follia, ma quella follia che l'ha reso anche geniale. Dai, è stato il personaggio più difficile della mia carriera, te lo giuro. Ma ciò ci credo. Che mi scivolava. Io all'inizio pure ho detto, ma come farà? Dove prenderà la forza, no, la faccia? So, e invece eri so. Identico. Ah, boh, identico. È stata anche una fortuna un po'. No, studiati. No. La fortuna. Però, il complimento più grande, guarda, mi sono arrivati tantissime telefonate dei tuoi colleghi, e questo, guarda, quando si muovono i colleghi, eh sì, tu lo sai, no? Lo so Pino, quando ti arriva una telefonata di tua zia, di tuo cugino, vabbè, ci quando sta. Ti arriva la telefonata da Fiorello, quando ti arriva da un'altra, ti arriva, sì, da Giuliano Gemma, perché l'ha conosciuto, certo. Ti fa veramente piacere, perché capisci che gli hai toccato una rievocazione di qualcosa, veramente. Ma la cosa più bella è stata Simone Annichiaro, che è il figlio, ricordiamolo. Il figlio di Walter, certo. Di Walter, che mi fa, mi ha chiamato dopo la fiction, mi fa, ma vaffanculo. ma ho pianto due volte nella mia vita, quando è morto mio padre, e adesso vaffanculo. Ci sta. Finito, non mi ha detto niente. E vale tanto, vale tanto. Non ti giuro, ma mi ha fatto un piacere, poi dopo ci siamo sentiti. Sì, è uno dei pochi casi in dove il vaffa è un posto bellissimo. Ma si può dire anche in radio. Sì, detto così è radiofonico. L'abbiamo detto pure con la O giusta, perché c'è prima un signore che ci ha corretto un paio di O aperto, chiuse, perché non è baffangolo, ma il siciliano può essere diverso. Per cui, Alessio, io ti ringrazio veramente, questa testimonianza, no, intanto voi, telefonica, è stata bella, è stato molto dolce da parte tua, spero di averti in radio, ovviamente. Sì, voglio venire a vedervi tutti quanti lì. Quanto state prima. Tutta, come siete, in calzoncini? Siamo nudi, nudi, lo sai, la radio non abbiamo, non è una radio video. Cambiamo il titolo, Radio Nuda. Radio, esatto. Corpo, non ti dico cos'è Pino in segno nudo. Ma io l'ho immaginato solo in spogliatoio. Sì, ma quasi tu. Io devo il mio successo al fatto che ho rappresentato sempre il sex symbol italiano, lo sai perfettamente. Lo so. Quello è stata la chiave del mio successo. Tu non ti ricordi, no. Ti chiudo in questo modo qua. Dimmi. Io la prima volta che ti ho conosciuto, ti giuro, io facevo l'Accademia d'Arte Drammatica e facevo il cameriere, ma certe volte facevo anche i fotoromanzi, perché ti posso garantire che mi davano 500.000 lire all'ora e facevo un mese di cameriere per guadagnare quei soldi, e lo facevo tranquillamente. Mm-hmm. E in un fotoromanzo lavoravo con Brigitta Boccoli, ero fidanzato con lei, venissi sul set e ci salutammo lì la prima volta, io ero un ragazzino e ti conobbi lì così. Ma che Brigitta, che cosa hai aperto? Avevo 21 anni, è uno dei proprio dei momenti proprio, e tu stavi con l'erba. Ma che bello, io ho ancora 20 anni, penso un po'. Comunque, grazie Alessio anche di questo ricordo. A prestissimo, amico mio, e ti ringrazio, sei proprio una gran bella persona. In bocca al lupo, saluta Haber, digli di stare tranquillo dietro le quinte. Bene, grazie Alessio Boni. Grazie Mario Cordova, grazie Roberto De Vita. Adesso abbiamo un buonasera altro ospite, e grazie davvero, grazie di queste bellissime testimonianze. A tra poco con Voice Anatomy. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani, e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. la Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia, hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Voice Anatomy. Signori, eccoci qua, la pausa leggermente più lunga dovuta anche alla TG. Notizia per testimoniare la nostra diretta, sono le 16.06 e 39 secondi, sta nevicando a Roma. Cioè, questa è una notizia. Nessuno l'ha detto prima, che normalmente, no, ti dicono attenzione domani, quindi nessuno, almeno non l'avevo saputo, però sta nevicando. È affascinante, ma sappiamo che cosa può succedere in una città dove non ci sono gli ski lift e gli ski pass per vivere. Allora andiamo avanti invece noi imperterriti nella nostra trasmissione. Molto interessante devo dire quest'oggi, anche dovuto al fatto e grazie ai nostri radioascoltatori, agli ospiti che abbiamo avuto, che hanno creato dei contraddittori molto ma molto interessante. Allora, interessanti, ci sono tantissimi vostri, ma tantissimi oggi, sono veramente tanti, è difficile anche leggerli tutti i vostri messaggi, piacerebbe anche sentirvi per telefono come è successo poco fa. Vi ricordo i nostri numeri 800 24 00 24 per le dirette e gli sms che conoscete perfettamente visto che state inondando il nostro computer 349 238 6666 e per diventare nostri amici anche Facebook, la pagina proprio ufficiale di Voice Anatomy dove troverete foto e i filmati anche ripresi dei nostri attori mentre recitano, i nostri momenti più importanti, ovviamente Twitter, ovviamente tutti i nostri social. Mi sta dicendo dall'altra parte Damiano, ma io sono un doppio podcast, non leggo i labiali, ma lui non pronuncia molto bene la parola, allora non riuscivo a leggere il podcast che sono sempre molto scaricati. Mi ha raggiunto al mio fianco, si alternano come sapete i nostri ospiti e c'è un ospite molto ma molto interessante, anche lui ci accompagnerà in un nuovo mondo della voce. Lui è un etnomusicologo e questo la dice lunga. Il suo nome e cognome sono due nomi, perché Giorgio Adamo, sì, Giorgio, Giorgio come Stefano, Giorgio, Giorgio è il tuo nome, o Giorgio, adesso telefonerà il nostro amico professore, ci dirà, è Giorgio, e io mi fiderò del mio amico professore. Giorgio Adamo, leggo una brevissima biografia, anche perché è vivente, ringraziando il cielo, ce la racconterà ce la racconterà anche lui, però è giusto presentarlo asciugandolo anche un po', come lui ha chiesto, dico asciugatelo un po', altrimenti vado antipatico prima di cominciare la trasmissione, però è giusto raccontare da dove vieni e cosa stai facendo. Professore di etnomusicologia, come ho detto poco fa, dell'Università di Roma Tor Vergata, si è specializzato a Vienna nell'analisi acustica degli stili di canto. Nelle sue pubblicazioni degli anni 80 e 90 ha trattato soprattutto la musica folcloristica dell'Italia meridionale attraverso un'analisi degli stili vocali e dei rapporti testo-musica, molto interessante. Dal 2000 è impegnato in una ricerca basata sull'uso di documentazione audiovisiva nel contesto di pellegrinaggi, processioni, feste in Italia meridionale, di cui siamo molto, ma veramente molto ricchi. Nel 2008 ha avviato una serie di campagne di documentazione audiovisiva nel Malawi. Nel Malawi centro meridionale, che è diverso dal Malawi centro settentrionale. Beh, è una zona di approfondimento. Quella è una zona. Ma adesso, insomma, cominciamo a conoscerci meglio e a capire questo percorso. Allora, con lei oggi ovviamente faremo un viaggio etnomusicologo con degli esempi sonori attraverso le culture musicali presenti nel nostro paese, ma poi ci spingeremo anche su un piano internazionale per coglierne le caratteristiche e le relative peculiarità. Prima di tutto, professore, anzi Giorgio, dai, sì, dai. Dai Giorgio, cerchiamo di capire in cosa consiste la figura dell'etnomusicologo e soprattutto di cosa si occupa. Ma diciamo, fondamentalmente studiamo musiche in diverse culture, quindi vediamo un po' il rapporto tra la musica e le diverse culture, sia a livello internazionale. E l'interpretazione vocale, ovviamente. Varie. Sì, beh, io in particolare mi sono occupato degli aspetti vocali, ma poi in generale, insomma, le musiche possono essere studiate da vari punti di vista. E poi anche per quello che riguarda, per esempio, l'Europa, un paese come l'Italia, musiche di diverse tradizioni, la tradizione folclorica, quello che una volta era la tradizione contadina, e quindi insomma è un po', diciamo, un modo di affrontare la musica a livello così delle diverse culture, ma soprattutto tiene in piedi poi una cultura, una tradizione importante, insomma riusciamo a tramandarle poi queste cose. Sì, certamente, infatti la documentazione è un aspetto importante, no? Registrarle, documentarle, per fortuna, ecco, già ormai da parecchio tempo si è cominciato a documentare queste musiche in Italia e in tutto il mondo. Io poi ovviamente leggo le domande, qualche domanda molto interessante che cerca anche di aprire questo mondo e farlo conoscere a tutti, me compreso, perché è importante questo percorso da fare insieme. Il nostro paese possiede proprio una vasta elaborazione musicale e poi molto varia, differente, e a seconda proprio dell'appartenenza, come dicevi, geografica. Il primo esempio che lei ci ha portato è quello di una voce femminile registrata in Basilicata nel 1952 da Carpitella e De Martino. C'è, sì, la vogliamo ascoltare e poi ce ne parli? Ascoltiamo subito, e perché poi ci ha portato dei file molto interessanti che vanno veramente da queste voci a dei gruppi musicali anche molto conosciuti, e ci racconterà il loro significato. Ascoltiamo questo primo intervento, questo primo file. Eccola. Beh, come si sente, è una voce molto particolare. Oggi è difficile, sì, trovare voci così. Queste erano le ragazze. Sembra pitchata, come si dice in gergo, cioè allungata, cioè resa più alta da un effetto, invece non una voce originale. Sì, perché questo appunto è il tipo di emissione che era caratteristico di un mondo che viveva all'aperto, il mondo contadino e pastorale, per cui la voce all'aperto doveva arrivare. Aveva bisogno di essere sostenuta sia come intonazione, sia anche, questa è una voce molto ricca di armonici, cioè ha delle componenti molto acute, molto particolari, e questo è quel mondo appunto che è stato scoperto in Italia un po' negli anni 50 da questi studiosi come Carpitella e De Martino, che hanno girato tutta Italia, soprattutto il sud, alla scoperta. Sì, il sud è molto ricco di tutto questo. Cioè, loro infatti poi scoprirono anche questo mondo dei canti a zampogna, i canti all'organetto, ma queste voci così, ho scelto un esempio di voce sola perché proprio dà, no, questa idea di una vocalità per certi aspetti forse. Cosa raccontava questo tipo di vocalità, questo tipo di canto popolare? Questo diciamo è un canto che si usava per la raccolta delle olive, come i canti di mietitura, certo. Quindi canti all'aperto, i temi sono amorosi, qui questo canto dice un po' appunto: ah, ma mannaggia questa guerra, il mio amore è lontano, dorme per terra, ah, non avrei dovuto farlo, cioè non la via fa, non avrei dovuto farlo, nel senso non mi sarei dovuto innamorare. Si cantava durante la raccolta oppure un po' nelle pause, un po' durante la raccolta, un po' durante le pause, cioè la musica ha sempre un po' accompagnato, no, tutte le varie dimensioni di vita, le e ti aiutava a sentire magari meno la stanchezza. Certamente sì, cioè. E questo è come i militari quando corrono eccetera eccetera. Sì, beh, ma infatti poi anche nei film, no, vediamo anche in America le tradizioni afroamericane. Certo, la raccolta del cotone, ci arriveremo piano piano. Già siamo arrivati al primo appuntamento, ma continuiamo, è appena cominciato il nostro rapporto, questo viaggio attraverso la musica e il folklore italiano, attraverso le voci, attraverso la musica, con il nostro amico Giorgio o Giorgio Adamo, come primo uomo il cognome, non è male per niente. A tra pochissimo con Voice Anatomy. Voice Anatomy. E come avete appena ascoltato, insomma, la neve sta cominciando a farla da padrone, inaspettata, sì. Perché questo caldo, beh, è tutto anomalo, non sta a noi cominciare a dire non ci sono più le mezze stagioni, però, non ci si capisce più niente, da 18 gradi dell'altro ieri passiamo a una città di neve tra pochi, speriamo di fare in tempo a tornare a casa. Abbiamo cominciato questo viaggio attraverso l'Italia, attraverso il mondo, attraverso questa etnomusicologia raccontata da Giorgio Adamo. Abbiamo raccontato poco fa di questo canto folcloristico durante la presa delle olive, la raccolta delle olive in Basilicata, questa voce acuta che aiutava sicuramente a passare del tempo, ma nello stesso momento racconta e tiene viva una tradizione vocalmente così acuta perché si stava all'aperto e doveva arrivare, la voce cosiddetta portata, che se uno parla così all'aperto non ti sente nessuno, se uno fa ehi senti, allora a quel punto alzato di qualche ottava qualcuno ti sta ascoltando. Hai portato abbastanza file da raccontare dalla Basilicata, passiamo alla Sardegna. Proprio si tratta di un genere questo polivocale, e poi dopo una puntata che abbiamo fatto su Demetrio Stratos, questa difonia, questo è polivocale, il canto a tenore, proprio caratterizzato da una particolare emissione di voce. Ascoltiamolo e poi ne parliamo con Giorgio. Marabè maramum, marabè maramamum, marabè maramum, marabomorumorum, marabè maramum, marabè maramum, marabè maramum, marabè maramum, marabè maramum, Bimabe mamum, bimabe mamum, bimabe mamum, bimabe mamum, bimabe mamum, bimabe mamum, bimabe mamum, bimabe mamum, bimabe mamum, bimabe mamum. Affascinante. All'inizio scatta pure un sorrisino all'inizio, perché sono tipi di vocalità alle quali siamo abituati, poi ti accorgi che c'ha, ecco, questa interazione, questa polifonia. E sono quattro voci. Questo è diventato un po' un emblema nella Sardegna, ormai è conosciuto un po' questo genere di canto un po' in tutto il mondo. La particolarità di questa registrazione è che le voci entrano una a una, e che è stato proprio richiesto da chi ha fatto la registrazione di entrare in questo modo, proprio per documentare la caratteristica particolare di come si costruisce questo mondo. Un'armonizzazione. Quattro voci, esatto, sono voci particolarissime, queste voci molto profonde, si comincia molto da voce aspre, da orco, e poi però va al però su. Esatto, piano piano si riempie l'insieme. Qui ovviamente è anche interessante molto il rapporto, parlavamo di regioni, no? Con la lingua del posto, la lingua sarda ha delle sue sonorità particolari, no? Questo, in questo caso anche si coglie poi quando parte il canto, che le sonorità sono molto legate alla fonetica proprio della lingua. Ha derivazioni da altre parti del mondo oppure nasce proprio lì? Questo è molto tipico della Sardegna. Infatti devo dire un po' da tutto il mondo si sono interessati. La Sardegna in particolare è ricchissima di tradizioni musicali molto interessanti, e questa particolare tradizione vocale ha avuto poi addirittura successo anche nell'ambito della World Music, stata scoperta da Peter Gabriel. Vi consiglio, sono dei dischi, dei CD proprio prodotti dalla World Music di Peter Gabriel, che è attentissimo a queste proprio queste tradizioni folcloristiche di tutto il mondo. Certo, sì, e questo dà un po' l'idea, no, appunto, di come il mondo della voce sia un mondo, è come se noi normalmente ne utilizzassimo soltanto una piccola parte delle possibilità incredibili. È come il cervello, è uguale la voce. utilizziamo soltanto una piccola parte. Sì. Ogni cultura seleziona un po', no? Alcune... Potremmo fare una puntata su ogni regione, perché questa trasmissione proprio, che credo che sia unica nel suo genere, almeno in questo, sperando che sia anche apprezzata nel suo genere, ma credo di sì, lo vediamo dall'affetto e dalla costanza con la quale ci chiamano, ci seguono e ti fermano anche per la strada, e questo normalmente è sinonimo televisivo, no? Invece i complimenti fatti su una trasmissione radiofonica sono molto più belli, sono come sul teatro, ho visto a teatro, fa più piacere che ti ho visto in televisione perché capita a chiunque di vederti in televisione, ed è bello questo percorso. Saremo un po' più rapidi rispetto a te, ma noi torneremo a parlarne sicuramente. Oggi è soltanto per assaggiare un po' questo percorso, e passerei all'altro file che ci ha portato, il terzo, se tu non abbiamo niente da aggiungere. Avremo molto da aggiungere, no, ma direi però che... camminiamo così, che diventa molto interessante. Andiamo in Persia cioè dalla prima la Basilicata, poi la Sardegna, adesso ci porti in Persia. Un canto classico persiano, anche qui una voce femminile straordinaria. E qui è interessante perché c'è anche un flauto, mm-hmm. e c'è tutto un gioco tra voce e flauto, che è un esempio dei giochi tra voce e strumento, che sono una delle componenti spesso della musica i vari giochi tra voce e strumento. Allora, questo direi forse lo possiamo fra tromba normalmente cantanti nere americane sono delle sfide pazzesche, sono straordinarie. Ascoltiamolo però. Diamo il benvenuto al re di Persia. Beh, ma questo è bello, è affascinante. Ci sono porta lontano. Virtuosismi vocali. Non poi facile, spesso. Non facile, ma soprattutto crea un'emozione fantastica. Immediatamente ti rendi conto in che parte del mondo sei. Comunque, non precisamente. Sì, però l'atmosfera arabo orientale, persiana. Tutta. Appunto, Ti vedi già quei mercati con i serpenti cobra che escono dal cestello di vimini, o comunque un'atmosfera. Se c'era un brusio di mercato di souk, c'era tutto, infatti. Ma infatti questo è proprio quello che accade nel rapporto tra voce e culture, cioè che la voce diventa proprio un emblema, no? Perché noi riconosciamo, anche se magari non, un po' come, non so, le sonorità cinesi, magari chi è che conosce bene la lingua cinese o la cultura cinese? Pochi. Però noi riconosciamo una sonorità che ci porta verso quell'area del mondo, no? Esatto. Perché comunque i suoni hanno una matrice culturale, quindi questo è una matrice, non una matrice, perché sai, parlando adesso che c'è una dischetta fame, uno pensa alla matrice, pensa subito alla nascita della pasta. Sì, questo sì, infatti ti porta veramente lontano, è suggestivo ed è interessante sapere come nascono. Sarebbe bello proprio focalizzarci ancora di più sulla nascita proprio di questo tipo di vocalità, da dove viene fuori, ma noi ne siamo un esempio poi ricchissimo, perché veramente 21 regioni, ma 21 modi di raccontarsi. L'altro file, prima di chiudere anche questo blocco insieme a te, perché ce ne hai portati tanti, questo dove ci porti adesso? È molto particolare, andiamo tra gli eschimesi, cioè gli Inuit del Canada. Beh, questo è affascinante. E questo è una cosa che io sfido chiunque avesse sentito una canzone capire degli Inuit. No, ma soprattutto a riconoscere che si tratta di voci femminili, perché sono delle sonorità pazzesche che loro ottengono con una tecnica molto particolare, magari ne diciamo qualcosa dopo. Se possiamo sentire almeno, magari sono due esempi in fila abbastanza brevi, magari l'ultimo non lo sentiamo, perché sono veramente sono dei giochi vocali, è una sfida tra due donne. Ascoltiamola e poi magari la commentiamo un pochino. Certo che sì. Queste sono voci femminili. Sì, un sorriso può sorgere, ma è interessantissimo. Se possiamo anche magari andare un pochino avanti, perché anche quello dopo è... Non può andare avanti. Okay. Allora ci fermiamo qui. No, vabbè, ascoltiamolo intanto, perché intanto meno male che ci hai detto che sono voci femmine. Questo che tipo di canto è? Intanto è appunto un gioco, lo chiamano proprio gioco vocale. Due donne si mettono una di fronte all'altra. È una battle, come dicono, esatto, nell'hip hop. Esatto. E si sfidano, praticamente perde chi a un certo punto esce fuori e in genere scoppia a ridere, perché chiaramente Ti porta a farti il sorriso. Sì, insomma. Sì, infatti loro è un po' come quando si giocava a guardare chi ride prima. E chi ride prima. È un po' il meccanismo è quello, perché loro stanno una di fronte all'altro e i suoni sono continui, perché sono ottenuti sia espirando che inspirando. Quindi è un meccanismo di che questo non è tipo, facile, soprattutto inspirando, però diciamo consente di emettere suoni continuamente. Per quale motivo c'è questo gioco? È un gioco folcloristico? Ma un gioco... sì, no, è un gioco, diciamo, sì, non ha particolari significati rituali, ecco. È proprio un gioco, questo è interessante, perché beh, certo lì la vita tra i ghiacci non è che deve essere molto eccitante. Sì, per cui, a parte sciare, non c'è tradizionalmente altro. Evidentemente hanno inventato così dei questo modi modo di socializzare attraverso c'è un secondo tipo. Esempio, mi dicono, di questa tipologia di canto. Può essere un loop straordinario per un rap, questo. Anche questa è la sfida fra due donne. Sì. Ma una non deve mai smettere, non finisce l'altra di cantare e l'altra gli va sopra. No, sono insieme, una sull'altra. Si sovrappongono. E si inseguono un po', si imitano anche. E poi è armonizzato bene, perché sono anche intonate. Cioè non è che una stacca sull'altra. No, ma infatti è straordinario. Questo è stato un po' scoperto soprattutto negli anni 70. È stato studiato per... Questo può portare a uno stato alterato di coscienza, questo tipo di trance? Sì, in particolare in questo caso non credo che sia molto previsto, però indubbiamente è un tipo di meccanismo anche di respirazione che potrebbe anche portare. Sì. Ci sono casi iperventilare il cervello, sì, troppo infatti, ossigeno infatti, porta anche a quello, sì, a svenire, sì. O resiste, beh, non è male per niente. Allora, siamo arrivati anche questa volta correndo, alla fine siamo passati sempre 15 minuti, ma siamo passati 2 minuti, perché è un percorso interessantissimo che fa anche spezzare la lancia a un sorriso, ma un sorriso culturalmente molto alto. E grazie Giorgio per averti portato, intanto sei ancora qui perché ci sono altri file da analizzare e ci porterai in altre parti del mondo. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Voice Anatomy, qui presente 16:30, 51 secondi, con il nostro amico il professore Giorgio Adamo, che ci sta prendendo per mano e portandoci in giro per il mondo, raccontandoci la musica, il folklore, la voce che racconta tutto. Io voglio anche ringraziare tutti quelli che stanno mandando messaggi, non posso leggerli tutti, sono tantissimi. Qualcuno che la sta ancora registrando la trasmissione per ascoltarla poi tranquillamente seduto in poltrona, poi avete i podcast, come dicevamo prima, e potete scaricare tutte le nostre trasmissioni. C'è anche un amico che il suo cane, che si chiama Pino, poi come me, non so se è un collega per questo motivo, che segue la trasmissione, si tranquillizza oggi, sta nel parco felice e beato. Daniele da Cagliari ci ringrazia per questi esempi della sua terra, tutti molto attenti, insomma grazie davvero, complimenti, sono tanti e vi ringraziamo. Andiamo ancora avanti con il nostro amico Giorgio, lasciamoci prendere ancora una volta per mano. Dove andiamo? Dopo gli Inuit. Andiamo in Mongolia. Eh beh, certo, dopo gli Inuit andiamo in Mongolia. Stiamo facendo un percorso che neanche Google Maps. In Mongolia, perché lì in Asia centrale si è creato questo stile particolarissimo, cosiddetto canto sugli armonici, che poi lo faceva Demetrio Stratos, nominato Demetrio Stratos, e nasce un po'. Uno dei luoghi dove è nato è lì, tra le montagne, tra ma infatti lui monti. Dopo nella sua carriera ha cominciato ad andare a studiare. E c'è questa tecnica particolarissima per cui la voce rimane ferma su una nota abbastanza grave e solo con la risonanza della bocca praticamente si mettono in evidenza un altro solo suono. alcuni degli armonici, un altro suono, e praticamente la bocca si muove, si trasforma come se si pronunciassero delle vocali, un po' come il principio dello scacciapensieri. No, che sono due suoni, insomma, diafonia. Esatto, e si ottiene questa diafonia, che è un effetto molto particolare, perché il tipo di sonorità che esce è molto singolare. Forse è non facile, come no. Grazie Alessandro, sentire. Sempre molto presente e attento. Vai. Sono prove tecniche di trasmissione, stiamo parlando di afonia, no, di afonia, diafonia, questo doppio suono che abbiamo già percorso con l'amico Diego Cossu, questo vocologo, questo professore, a proposito di Demetrio Stratos, questa cosa difficilissima, sì, difficilissima, una tecnica veramente difficile. Sembra una cosa facile sentirla, ma fare due suoni, di cui uno grave, l'altro, queste armoniche con... trovando delle vocali, anche questo porta a uno stato alterato per chi ascolta. Una sorta di meditazione vocale, sì. Veramente. E questa nasce, sì, queste sono meditazioni, sono proprio dei canti, dei suoni che portano veramente quelle persone, quella cultura lì, a trovare la concentrazione necessaria. Sì, fa sorridere certe volte, ma non è così, signori, è veramente profondo. C'è anche, ci ha raggiunto... un amico, un giovane attore affascinato dal mondo della voce, Giuseppe, vuoi anche salutare? Sei stato qui dall'inizio della trasmissione, affascinato da questi percorsi, tu sei come se fossi uno della gente, un radioascoltatore fisicamente presente. Lui è un bravissimo attore, giovane e grande studioso. Puoi far sentire la tua voce, che nonostante tu abbia soltanto 23, puoi parlare. 26 anni. No, non alleggerire. No, lui ha un vocione, ogni volta diciamo un po' meno, ti prego. Salve, salve a tutti. Ecco, Giuseppe, poi fra un po' ti intervisterò quando adesso farai delle cose. Wow. Però già il tuo impegno, la tua voglia di fare ti dà dei punti, perché un ragazzo deve avere quello, lo dico sempre, spessissimo, quella bava alla bocca, quell'occhio della tigre, quella voglia di imparare, di rubare. E questo ti fa onore, perché è sempre presente dove si può rubare qualcosa, ma stavolta rubare nel secolo R minuscola. Allora, siamo andati, ci hai portato qua giù in Mongolia, adesso ritorniamo a sonorità un pochino. Dove ci porti? Più... io non leggo, voglio che tu mi prendi per mano anche a me. Adesso entriamo un po' nella grande tradizione afroamericana con una voce di Aretha Franklin. Beh, perché è proprio nel rapporto voce-cultura, no? Anche le voci ormai a noi più vicine, cioè insomma il tipo di musica anche che ascoltiamo viene di più, però ha delle matrici culturali, per cui una voce come quella di Aretha Franklin può essere molto diversa da quella magari di una cantante irlandese, certo. No? Anche nel pop, nel rock, infatti poi dopo faremo un confronto con una voce rock. Beh, Aretha Franklin credo che c'è poco da dire, no, cioè pochissimo. Una voce assolutamente straordinaria. Ho scelto uno dei brani con cui è diventata famosa, questo è un brano del 68, Think, che poi tra l'altro nel film Blues Brothers ce n'è una versione anche divertente e ironica. Sì, l'altra settimana abbiamo avuto Massimo Giuliani, che è il doppiatore poi di John Belushi, che ci ha fatto rivivere un momento molto divertente del film, dove lui vabbè, quel film ogni volta che comincia, quei film quando cominciano vedo solo un pezzetto, esatto. E vai a finire che te lo finisci, esatto. Tutto come Frankenstein, sono quei capisaldi di film che non puoi farne a meno di rivederlo. E Blues Brothers è uno di quelli, vabbè, vedo solo sto pezzo quando canta Ray Charles, poi dice vabbè, ma vedo solo sto pezzo quando vabbè. Intanto ascoltiamoceli doppiamente con piacere, uno perché è un brano radiofonico da paura, e poi perché anche questo racconta una tradizione popolare molto ma molto importante. Aretha Franklin, Think. Think Pensa prima di parlare. Che bello. Beh, che bello. Tu sei, dire che tu sei un amante della musica e dire niente. Come è cominciata questa tua passione, Giorgio? Beh, direi effettivamente dagli anni, io sono cresciuto con i Beatles, Bob Dylan, gli anni 60, no? La grande rivoluzione musicale. E quindi da lì poi, insomma, piano piano ho cominciato a occuparmi un po' di tutto. Hai cominciato, no? da rivoluzionario, jazz, insomma. Eh sì. Da capellone. Esatto. Da beat, vero? Da Woodstock. E poi da lì un po', appunto, poi ho finito per occuparmi un po' di tante musiche, perché la musica è un mondo incredibile. Eh sì, come quello della voce, camminano proprio parallele. Musica e voce, potremmo fare una trasmissione tutti i giorni di 4 ore senza stancare nessuno. Speriamo, speriamo. No, tranquilli, ancora non è così, tranquilli. E dopo Aretha Franklin mi hai detto che c'è un disco, andiamo sul rock. Andiamo sul rock. Beh, Freddie Mercury, i Queen. Ma stiamo diventando due DJ, attenzione. Attenzione professore, stiamo diventando DJ in chiusura di trasmissione, siamo partiti da... ma perché la voce è anche questa. Dalla Basilicata siamo sempre all'Inghilterra, la voce è cantata. Ah, beh, poi Freddie Mercury. Cantata, e quindi devo dire che appunto nel rock poi spesso si ha anche un eclettismo, no? Molteplice, per cui qui adesso forse non riusciremo a ascoltarlo tutto perché il brano è lungo, Bohemian Rhapsody è un po' lunga, però... ci sono vari momenti, c'è la voce di Freddie Mercury, poi ci sono le vocette, i cori con le vocette proprio. Anche nel tributo a Freddie Mercury non l'hanno ricantata dal vivo, hanno preferito rimandare, a parte il primo pezzo, George Michael eccetera, ma poi hanno mandato i cori, quello originale, perché è un canto straordinario, un brano straordinario questo. Siamo ai livelli di The Great Gig in the Sky dei Pink Floyd, dove c'è quella voce di donna straziante in 3 momenti diversi. E vi prego, se non avete quel disco a casa, The Dark Side of the Moon, non potete essere considerati è degli esseri umani, no? Ovviamente la mia è una provocazione, ma The Dark Side of the Moon deve stare a casa di chiunque, e quello lì non può mancare. E provate ad ascoltarvi questo, se non l'avete mai fatto, The Great Gig in the Sky. È meraviglioso questo urlo lancinante di questa donna, questo pezzo di Waters e Gilmour, da perdere il fiato, come lo è questo Bohemian Rhapsody. Presentalo tu, dai, da bravo DJ professore. Vabbè. Vai Alessandro, Bohemian. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and I thought I'd throw it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again, interrompere questo brano è come interrompere, non so, una cena romantica al lume di candela con Sharon Stone o con chiunque altro, non so. Chiediamo bene ai nostri ascoltatori, ma stiamo facendo questo percorso partito, diciamo, dalla Basilicata. È un invito a andarlo a riascoltare. A riascoltare, no? Esatto. Siamo partiti dalla Basilicata attraverso la Sardegna, ci hai portato in Mongolia, ci hai portato fra gli Inuk. Come si pronuncia esattamente? Non voglio poi sbagliare, no, mi riprendo. Inuit, credo. Inuit, che sia va bene così. Passando per Aretha Franklin e approdando poi questa voce straordinaria di Freddie Mercury, che veramente racconta un mondo. Non è possibile, infatti i Queen non hanno continuato. Non puoi continuare. Non è possibile. No, senza di lui non è proprio possibile. Hanno tentato, ma non ce n'è, non puoi sostituirti a Freddie Mercury. L'unico poteva essere un po' George Michael, che in quel concerto, in quel tributo bellissimo che ancora ho nelle orecchie, era l'unico che riusciva comunque a far assaporare un po' quel dualismo vocale che aveva Freddie Mercury. Professore, siamo arrivati praticamente a 1 minuto e mezzo dal saluto. È stato interessante, ma sicuramente Spero. Dobbiamo... No, assolutamente sì, dobbiamo assolutamente approfondirlo poi questo discorso. Tante volte questa trasmissione porta degli ospiti per conoscerli, per poi continuare a frequentarli. Volentieri. E questo è sicuramente il caso che si è creato insieme a te in questo pomeriggio nevoso. Come sta andando fuori la neve? Non voglio fare le previsioni. No, è stato un accenno. È stata una spolverata del cielo, una leggera spolverata qui. Non so cosa succede nell'entroterra appenninico italiano. Bene, c'è, mi dice Damiano, mi dici? Sì, c'è ancora un blocco insieme. Sì, no, lo so, lo vedo dall'orario, però intanto saluto il professore. Oh, può rimanere con noi il professore ancora? E allora rimani qui con noi, caro professore, che poi ci colleghiamo per la fase ludica di questa trasmissione, non divertente per me da molte domeniche, ma e con i nostri amici dello sport, di tutti i convocati che ci ragguagliano e ci aggiornano sui risultati di calcio ancora in corso e magari danno ancora una piccola speranza a chi come noi soffre costantemente tutte le domeniche. Fortunatamente c'è questa trasmissione che mi tira sul morale. E allora rimanete con noi, tra pochissimo torniamo con Voice Anatomy per stare ancora un po' insieme. Voice Anatomy. Non ho mandato via il professore, vogliamo passare questo ultimo blocco insieme prima di collegarci con tutti convocati. Grazie ancora dei vostri complimenti, bellissimo il brano della Franklin. Da che disco o live viene? No, non è un live, è il disco proprio originale, no, l'incisione originale del 68, sì. Perché poi insomma queste cantanti l'hanno ricantato in tutte le salse, sì, sì, sì. In tutti i momenti della loro vita. Questa si sentiva che era una registrazione, era proprio l'originale, è l'originale, no, cioè... invece l'altra è Bohemian Rhapsody, era live a Montreal nell'81. Ma che concerto straordinario, anche se qualcuno sarà, io dico sempre straordinario, ma che gli vuoi dire, Freddie Mercury live in quel modo. Cioè lui riusciva ad essere anche meglio live. E allora il mio grande tecnico del suono, unico, perché è anche portatore di buone notizie, mi ha trovato The Great Gig in the Sky, Great Gig, ma Gig credo che si dica, in the Sky, dei Pink Floyd. Ascoltate, sono tre momenti, è lunga ovviamente la canzone, ma anche questo vi servirà per andarla a cercare se non lo conoscete. Yeah. Oh. Torno in voce io, purtroppo, perché... E ringrazio Valeria Bernardi, che è il nostro tecnico del suono di Milano, che attenta mi ha suggerito il nome che io non sapevo di questa straordinaria turnista, perché non si è più sentita, Claire Torri, che mi dice essere stata poi pagata pochissimi pound per questo giorno di... registrazione. Beh, passata insomma, alla storia, cosa devo dire, anche nel live loro utilizzano tre cantanti diverse per fare questo momento. Invece grazie Valeria e grazie anche per il tuo lavoro che svolgi in quel di Milan. Un giorno cercherò anche di venire a trovarvi negli studi di Milano con tutto l'affetto del mondo. Allora, noi siamo quasi in chiusura della trasmissione, non so se da tutti i convocati c'è una richiesta di aggiornamento, perché c'è il nostro amico, chi c'è in diretta? Sono qui. Oh, dottor Capuano, sei tu, ma sempre sì, tu ci sei. Capuano, ci sono, non sono ancora finite le partite, Capuano. No, non sono ancora finite, guarda, sta iniziando adesso il tempo di recupero e diciamo che, a parte la Juventus che era 4-0, ma è 4-0 dal primo tempo. Quindi, sì, per cui non succede niente. Partita ampiamente finita, su tutti gli altri campi i risultati sono ancora assolutamente in bilico. Allora, intanto c'era la prima di Spalletti, Roma-Verona 1-1. No. Nainggolan, finale di primo tempo, ha pareggiato Pazzini su rigore al 16° della ripresa. Brutta Roma, anche se ha colpito due volte il palo, ma diciamo la svolta per il momento non si è vista. Siamo nel primo dei 4 minuti di recupero. E, c'è insomma, gente allo stadio, perché se Spalletti nonostante Spalletti abbia urlato la voglia di avere una curva piena che serve. Assolutamente, invece c'è poca gente, non sembra cambiato nulla. E questo anche pareggio da questo certo non aiuterà, almeno ancora non è finita, debbi di scongiuri da parte del pubblico giallorosso. Assolutamente. Poi c'è il Carpi che sta vincendo 2-1 con la Sampdoria, LOL e Correa nel primo tempo, Bakogu su calcio di rigore nella ripresa, c'è Chievo-Empoli 1-1, Paloschi e Tonelli un gol per tempo fin qui, c'è l'altra partita che è Bologna-Lazio e sono 2-2. Ero rimasto su un 2-0 pesantissimo quando sono ritornato in onda e dall'altra parte del vetro nessuno si è, mi ha fatto dei cenni, per cui ho immaginato in una debacle della Lazio questa squadra discontinua da impazzire. Invece questo 2-2, chi ha pareggiato? Guarda, chi ha fatto la partita che è cambiata a 20 minuti dalla fine, 2-0, la Lazio stava giocando un po' meglio nella ripresa, aveva preso anche un palo, poi a 20 minuti dalla fine c'è stato un calcio di rigore con espulsione di Masina del Bologna per un fallo su Klose, rigore segnato da Candreva. Subito dopo Lulic, il 2-2. Lulic. Sì, Lazio che ha avuto anche l'occasione per il 3-2 dopo con una bella parata di Mirante. Siamo davvero agli sgoccioli a Bologna. Non riesci mai a darmi una bellissima notizia piena, però tu. No, però ti do la notizia che è finita la partita 2-2. Ah, vabbè. Quindi Bologna-Lazio è finita proprio in questo istante 2-2. Un Bologna poi difficile, insomma, un Bologna che sta crescendo ed è insomma, pieno di risultati positivi a parte domenica scorsa, per cui era un Bologna che faceva un po' paura fuori casa, sinceramente. Assolutamente. Comunque la notizia, stando così le cose, al di là della decima vittoria consecutiva della Juventus che è seconda in classifica da sola a questo punto, poi aspettiamo Fiorentina-Milan di questa sera per vedere se l'Inter resta terza. Direi che la notizia è che la Roma ha pareggiato col Verona. Non vince, siamo davvero agli sgoccioli, siamo nell'ultimo minuto di recupero. No, questo adesso ovviamente non voglio fare discorsi sulla Roma perché ovviamente essendo dell'altra squadra della capitale sembra che io possa tirarla al contrario. No, io parlo di calcio a livello anche oggettivo, riesco ad essere anche oggettivo quando si parla di calcio. E no, questo ti fa capire tante cose, insomma, l'allenatore, il cambio allenatore normalmente dà la sferzata, la botta di ghiaccio dietro la schiena, soprattutto una partita così semplice, mi aspettavo la grande reazione della Roma rispetto all'arrivo di uno Spalletti, di un Garcia mai più amato, mai più voluto contro l'ultima in classifica, insomma, anche il popolo giallorosso credo si aspettasse qualcosa di più da questa Roma che ogni tanto imprende in queste crisi, depressioni calcistiche. Anche perché la sconfitta, il pareggio ieri dell'Inter dava una bella occasione alla Roma di avvicinarsi comunque alla zona Champions League. Devo dirti che al di là del gioco, poi siamo davvero negli ultimi secondi, Roma che ha corso molto poco anche oggi, e tu sai che uno dei temi era quello della condizione atletica. Sì. Evidentemente Garcia non aveva tutti i torti, è finita. Roma-Verona 1-1, c'è pareggio. Lo sguardo di Spalletti, occhi bassi. Eh sì, i suoi occhioni sono bassi, ma adesso vediamo la prossima partita. Prima della Coppa dei Campioni è a febbraio, vero? La Coppa dei Campioni è da fine febbraio in poi. La prossima della Roma è sinceramente proibitiva, ma non in Coppa dei Campioni, anche la prossima settimana prossima, perché è Juventus-Roma. Ah, bene, si torna all'epoca del gol de Turone, era valido insomma. Sì, però le vecchie diatribe antiche fra Roma e Juventus. Direi che quest'anno non è il caso. No, è un po' di tempo che non è più il caso. Carissimo amico mio, grazie. Io non vedo ancora l'ora di fare una trasmissione sulle voci dello sport, ma ti toccherà entrare in studio un po' prima, ma non potrai poi intervenire perché devi essere attento a quello che sta succedendo nei campi. Noi siamo multitasking, come sai. Ti abbraccio forte. Ciao, e buona domenica, amico mio. Grazie. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa avventura di Voice Anatomy, che è cominciata oggi in maniera molto informale con un avvocato penalista, perché ci affascinava insieme agli autori cominciare anche a percorrere il mondo della voce all'interno dei processi, che nell'immaginario collettivo è soltanto quello dei film americani, dove c'è il grande avvocato che arringa finale, come in JFK con Kevin Costner, in quella ringa straordinaria per l'assassinio, quella di John Kennedy, e ce l'abbiamo tutti negli occhi e nel cuore e nelle orecchie quel tipo di modo. Allora volevo chiedere proprio a un grandissimo penalista se è la stessa cosa, anche lui ci ha aperto un nuovo link, una nuova strada da percorrere per capire l'importanza della voce, e non solo della programmazione neurolinguistica, ma anche della comunicazione non verbale di un corpo che racconta qualcosa. Dopo di lui è venuto a trovarci in studio l'amico Mario Cordova, bravissimo attore, doppiatore ovviamente di tantissimi, ma soprattutto Richard Gere per quanto riguarda il cuore e le orecchie del mondo femminile. E dopo di lui Alessio Boni, un bellissimo intervento telefonico, e poi questo excursus la voce nel mondo, accompagnato da questo bellissimo e sorridente professore. Mi dispiace certe volte che non ci siano telecamere per inquadrare i nostri ospiti, però tante volte invece preferisco così, perché la radio con le immagini si chiama televisione, e come un libro con i disegni si chiama fumetto, e allora cerchiamo sempre di non mischiare questi mondi, certo. Lasciamo la fantasia della radio alla voce che racconta tutto. Ti ringrazio Giorgio. Grazie Adamo di essere venuto, sicuramente approfondiremo con te altri discorsi. Ospite silente, un bravo attore giovane, Giuseppe, grazie del tuo sorriso che ci ha accompagnato durante tutta la trasmissione. Grazie a te che mi hai ospitato. No, ci mancherebbe altro, se volete siamo aperti qui, basta saperlo prima per aprire le porte giù per il permesso. Alessandro, grazie delle tue mani, della tua dolcezza, della tua prontezza, grazie a Gaia, della sua, anche lei, ma veramente tutte persone pronte, non siamo tantissimi, ma sono tutti pronti. Grazie Alessia Navarro, grazie a Damiano Fabiani, grazie dall'altra parte, su, in quel di Milano, per il loro rapporto diretto con noi. Speriamo di avervi fatto compagnia anche questa domenica. Noi torniamo domenica prossima. Grazie per essere così tanti e grazie per volerci così bene. Grazie a tutti.